Allora, Cruciani, tu sei nato bruttissimo, sai benissimo cosa vuol dire vivere una vita da ragno, cioè da uno brutto, che le fighe non sono fine, eccetera. Però cosa è successo nella tua vita? Che tu sei riuscito a diventare famoso, va bene? Allora è ovvio che sei brutto come un cesso, però da famoso hai una chance. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Pronto? E il conduttore? Niente, volevo interloquire con il dottor Parenzo, perché è sempre il solito parassita che va a convenienza. Quando va bene, perché se vado io prostituta devono sputtanarmi, mandarmi la multa che lo deve vedere mia moglie. Quando si tratta della signora Mussolini non si può toccare. Io posso andare a puttane senza rompere in casa a mia moglie. Sono io che sono andato a puttane, è un mio discorso personale. Perché devono coinvolgere la mia famiglia? Che cazzo gli rovini la vita alla moglie, coglione! Coglione! Ma Donato di Varese non basta con te, ci vuole il leone con te! Se io sono un porco, che cazzo c'entra mia moglie che deve rompere il cazzo a mia moglie? Se io sono un porco, è un mio fatto personale? Basta! Donato di Varese non dovrebbe fare A, il leone dovrebbe fare A con te! Niente, io mi sono troppo divertito questa sera, grazie all'antenna della mia radio che si è rotta, e allora sento una strana zanzara, sento te che dici: ma tu ci vai a puttane? Ma quante volte ci vai? Cristo pietà, Signore pietà. Sì, perché sono cazzi miei, mi hanno beccato i vigili e non avevo cambiato un cazzo. Signore pietà, Cristo pietà. Perché si vede che siete contigui a Radio Maria, siete contigui a Radio Maria, la mia trasmissione non becca più niente, e allora io ogni tanto sento voi e loro, e quindi puttane e Radio Maria. David, dove sei? Dove sei? Dove ma sei? Sono depresso. Che è successo? Che sei depresso? Ho lavorato troppo oggi. Hai lavorato troppo? Sì, troppo. Parenzo, due punti. Lavoro troppo. Troppo. Lavoro depresso. Più di un operaio. No. Fatico no. Più no, di un operaio. No, questo assolutamente. Faccio un lavoro diverso. Sciocca la zanzara. Sto Parenzo scrivendo... dice di lavorare no, più no, di un operaio. Lavoro, sono svegliato molto presto stamattina alle 6:30. Poi sono andato. Sono tante dai, robe. Ma sei fatto. Patetico, dai. Su. No, lavoro un po'. Insomma. Non no, lavori, dai, non fai un cazzo. Dai, ma no, sto facendo questo libro sull'Europa. Tutto a favore il dell'Europa. Il libro sull'Europa. Tutto a favore dell'Europa. E questo sarebbe lavoro? E questo beh, me lo chiami lavoro. Leggere i dossier comunque, europei. Ragazzi, oggi ho capito comunque, una cosa. Vabbè, comunque, ho capito una cosa. Culo. Di cosa parliamo? No, ho capito no, una così cosa. Sei più contento. Aspetta, vaffanculo. No, ma non devi per forza dire vaffanculo. Io non sto dicendo nulla. Non ho detto manco una parolaccia fino adesso. Ma sto concentratissimo che leggere le direttive europee. Vabbè, concentrati su altro adesso. Per esempio, contro tutti questi anti-europeisti, sovranisti, nazionalisti. Stiamo lavorando, studiando i dossier per metterglielo in culo a questi qui che ci vogliono far uscire dalle Europa, far tornare alla lira. Siamo qui pronti a combattere ogni giorno con dossier, documentazioni per far capire l'inadeguatezza di questi no euro, a studiare da Strasburgo, Bruxelles, documenti, carte. Forza Europa, lo dimostreremo, avanti tutta. Ti è piaciuto di più così o no? Forza oh. Europa, forza Europa. Oh, ti è piaciuto Parenzo. Di più così? Forza, l'Europa è stato un bene. L'euro sì, è stato sì, un bene per l'Italia. C'è assolutamente. Ah, c'è assolutamente. Gente con la pezza al culo, vergognati. Vergognati, gente oddio, gettata oddio. Sul lastrico dall'euro, vergognati. Ma qua, ecco, vabbè, ecco lasciamo perdere, lasciamo. No, io no, sovranista. Io no, per niente. Guarda, a me non me ne frega nulla, questo lo sai qual è il punto. A me se c'è il marco, il franco svizzero, la lira, l'euro, non me ne frega un cazzo. Mi dicono oddio, che c'è l'euro? Male. Bene, adotto l'euro. Mi dicono che c'è l'euro. Che è successo? Che è successo? Sono arrabbiato troppo, l'ha detto il cardiologo, sto male. Allora, io ho capito una cosa oggi, mi fai finire un discorso, che il vero sindaco di Roma, il vero sindaco di Roma in realtà si chiama Beppe Grillo. Aridaie, lo abbiamo capito perfettamente oggi, ha incontrato i consiglieri comunali di Roma senza la Raggi e ha fatto alcune dichiarazioni sullo stadio. Ragazzi romani, tu Parenzo ti devi rassegnare, se vuoi chiedere conto al tuo sindaco non ti devi rivolgere alla signora Raggi, tu che abiti a Roma, devi andare a Genova, devi andare su quella spiaggia lì, devi andare dal signor Casaleggio a Milano, dici scusi, io sono un cittadino di Roma, siete voi che comandate Roma, è inutile che io vado al Campidoglio, è inutile che faccio una protesta a Campidoglio, tanto ogni volta ma devo andare a Genova o alla Casaleggio, lei Grillo che ne pensa? Allora Grillo è calato Roma, no ma sei lucido, sei questa è una cosa lucida, mi pare elementare, chiudila però, qua 18:38 dai, chiudo a scrivere il libro, va bene così, lucido, bravo. Davide, mi pare veramente una veramente elementare, no, però questa roba qui detta bene, sì, ma è una cosa da bambini della quarta elementare. Cioè, voi milioni di cittadini romani che siete all'ascolto, dovete capire che il vostro, se dovete incazzarvi con qualcuno per quello che succede a Roma, dovete andare alla Casaleggio Associati, giusto? Bravo. Andate alla Casaleggio Associati, forniremo numero di telefono e indirizzo, numero di telefono, la casa di Grillo, il numero di Beppe Grillo, il numero di Grillo, la Bibbona, dove diavolo sta ogni tanto Marina, in vacanza. Ogni di tanto Bibbona. Anche in costa, dove sta? In Costa Smeralda, dove va in Costa Smeralda? Sì, ottimo. Da Briatore lì a Coso, a Kenya, va benissimo. Rivolgetevi a Grillo, il quale dice per esempio sì allo stadio ma non lì, il che equivale a dire lo stadio non va fatto lì a Tor di Valle, cioè non verrà fatto nei prossimi 30 anni. Non è lo stadio, ma è una straordinaria, sarebbe stata cittadella dello sport. No, non è proprio così. Stadio. Solo il 14%, solo ristoranti, io cose sono contrario, verde. Io sono sgarbiano su questo. Ma sono molto sgarbiano. Tu sei antimodernista. Pochi grattacieli. No, nessun grattacielo, non guarda è che la meraviglia di Milano. Guarda Milano, ma che oggi com'è? Ma va bene, con quei grattacieli, va bene, straordinari, moderni. Guarda la Francia, ma guarda Milano, Parigi. Roma è Roma, dai. Guarda su. Parigi cosa ha avuto il coraggio di costruire. Comunque, Grillo, dai, vai. La provincia Lotto che sei. Nessuno dice di no. Noi diciamo di sì, ma da qualche parte che non sia quello, perché se c'è una zona che non esonda, magari è meglio. Poi dice che Roma sarà il nostro più grande successo. Sarà un grande successo, sarà il più grande successo del movimento Roma. Roma sarà il più grande successo del movimento. Sì, da quello che ho visto io, sì. E perché? Perché abbiamo le persone per bene giuste finalmente. Abbiamo le persone per bene e possibilmente nei posti giusti. I Faldoni come un raccordo anulare, tutto cartaceo, non c'è niente su internet, questa è roba per te Parenzo, senti. 190.000 faldoni, i faldoni faldoni nelle cantine, negli scantinati, non c'è un database, allagano gli scantinati per rendere inagibile entrare e prendere i documenti. 190.000 faldoni, 60 km, il raccordo anulare di faldoni. È anni che provano a metterci le mani, nessuno ci riesce. Ma perché non fanno lo stadio in 3D? Cioè, no, perché ma non serve. Come non serve lo stadio? Normale. Adesso come non serve lo stadio? Dice le partite sull'iPad. Siete dei cretini, l'iPad, perché ci sono sennò i costruttori, Caltaminchione, come si chiamano tutti questi altri, non lo so. Sì, Caltagirone, sì. Che costruiscono e invece non serve più il cemento, basta. Cioè, basta, ma per giocare a pallone come si fa? Poi? Non si gioca con l'iPad. No, non è che la Roma può giocare con l'iPad. Ma col calcetto Balilla sulle spiagge. Vabbè, tu dici per evitare non avete mai giocato a Subbuteo voi? Sì, va bene, d'accordo. Dici per evitare con le figurine panini. Per evitare i costruttori, tutta non questa. Non serve più 60.000 persone concentrate in un posto. No, da casa ti colleghi con l'iPad. Cioè, tu dici e tu hai Totti che è collegato da casa con l'iPad. C'è chilometro zero, bellissimo. Stai a casa. Cioè, tu dici la Roma con la Lazio giocano collegata. Tutti collegati. Questi costruttori maledetti che ci hanno rubato. Com'è quello Caltaminchione, non costruisci più. No, che lo dici tu. Hanno costruito tutto. Invaso di cemento, non serve. Pallotta. Ma che cosa? Uno che si chiama Pallotta, amici miei, ma di che parla? Per forza si occupa di calcio, porca puttana, si chiama Pallotta. Ma non serve a nulla. Basta un iPad. Steve Jobs ce l'ha detto anche lui. Cioè, le partite. Gli ho parlato, è morto, è vero, ma gli abbiamo parlato. Come cazzo gli ha parlato? Scusa. Tempo fa. Sono andato lì. Però gli ho detto sono Grillo. Lui ha detto who are you? Beppe Grillo from Italy, fuck yourself, mi ha detto, mi ha mandato via, ha detto vaffanculo. Beh, certo, perché certo. Non capiva chi fossi, ma io ho detto la rete, il potenziamento della rete. Scusi. scusi Grillo, come si fa a giocare a pallone? C'è Totti contro rete, in internet Totti è collegato, c'è Nainggolan contro quello della Lazio, come... con la videocamera, lui c'ha la videocamera via Skype, e così si evitano le speculazioni, e non ci sono speculazioni, costruttori, immobiliaristi, tutti sì, a fare in culo, tutti quanti con la rete. La rete, senti come gioca con la rete. Non serve più la macchina, dice Grillo. Non serve più la macchina. Te l'ho detto, non serve più. E noi di compenso facciamo una politica per svalutare e rendere il traffico privato meno invadente. Facciamo una politica per il traffico pubblico, lo sharing, i car sharing. Non hai più bisogno di avere una macchina qua. Ti puoi muovere a piedi, in bicicletta, poi i car sharing li prendi, li molli. Abbiamo una tecnologia straordinaria. Sì, bisogna dire a Grillo, che forse non capisce, non conosce bene le cose di Roma, che per esempio il car sharing recentemente, che io utilizzo da tanti anni, caro Parenzo, a Roma succede una cosa particolare. Uno dei due operatori che sono a Roma, che si chiama Enjoy, dei signori dell'Eni, credo, insieme alla Fiat. Cosa è successo? Che da Napoli alcuni signori sono arrivati a Roma e hanno depredato le macchine, le hanno portate a Napoli, le hanno smontate pezzo dopo pezzo e le hanno ovviamente vendute a pezzi sul mercato nero. E dunque c'è un po' di difficoltà su questa cosa a Roma, sul car sharing. Bergoglio, dacci una mano, Grillo. Bergoglio ha dichiarato che volebbe pagare l'IMU. Bergoglio, ti prego, mi hai già copiato tutto il programma. Ora cerca di dare una mano a questa meravigliosa città. Cioè, è anche giusto che tu partecipi e ti daremo dei premi, ti faremo delle belle cose, ma dai una mano, per favore. Bergoglio, abbi pazienza. Allora, queste le parole del sindaco di Roma, Beppe Grillo. Io da ora in poi farò così. Sì. Il sindaco di Roma, Beppe Grillo. Non me ne frega niente. Cioè, non nomino più nemmeno la Raggi. Ha parlato, avete sentito, il sindaco di Roma, Beppe Grillo, ha detto che Bergoglio dovrebbe pagare l'IMU, cosa giusta peraltro, non è sbagliato. Cioè, se la Chiesa pagasse un sacco di soldi a Roma, le casse di Roma sicuramente ne terrebbero vantaggio. Su questo ha ragione il sindaco. Non ha detto una cazzata. Il sindaco ha detto una cosa giusta. Io sono incazzato invece ancora con questi del Vaticano, come al solito, i quali rompono le balle insieme, devo dire, ad alcuni politici sul provvedimento preso dal San Camillo di Roma, appoggiato dalla Regione Lazio, sull'assunzione solamente di medici obiettori. Tu sai quanti medici non obiettori? Tu sai quanti medici obiettori, cioè quelli che non vogliono fare l'aborto in pratica, ci sono nel Lazio? L'80%. Sì, questo certo. L'80%. L'80%. Io dico, non solo che uno che è assunto come ginecologo, ostetico, quello che è, ha l'obbligo, perché c'è una legge, ha l'obbligo di praticare l'aborto. L'obbligo di praticare l'aborto, non forse, come, perché all'obiezione di coscienza. Scusa, ma non ho capito, quando c'era il servizio militare è vero che c'era l'obiezione di coscienza, per carità, poi c'era il servizio civile, ma è un'altra cosa. Qui c'è una legge dello Stato, una legge dello Stato di garantire i diritti delle donne, sì, delle ma persone. Lascia perdere i diritti delle donne, se uno vuole abortire c'è una legge che lo fa, che glielo consente, consente. Ci deve essere un medico che la fa abortire, certo, punto e basta, certo. Ragazzi, non c'è discussione. Cioè, io addirittura toglierei una parte dello stipendio ai medici obiettori. I medici obiettori devono essere sanzionati se proprio non vogliono abortire. Purtroppo non glielo si può imporre, io glielo imporrei. Se uno non vuole abortire, via! Parte dello stipendio, tolto! Se uno, tu fai il ginecologo e una legge dello Stato prevede questo, lo devi fare, punto e basta. La Chiesa dice le cose. Chi è che parla della Chiesa? Sentiamo qualcuno della Chiesa. Non c'è nessuno della Chiesa? Vabbè, sentiamo... Noia, questo Noia, che è il presidente dell'associazione ginecologi cattolici. Cioè, capito? C'è anche un'associazione di ginecologi cattolici. Perché ci deve essere una... Perché non ci sono i ginecologi, che ne so, buddisti? C'è bisogno di essere cattolici? Ma dai, su. Come le leggi razziali contro i disabili, l'aborto. Senti questa follia, senti. Non è vero che gli aborti sono diminuiti dopo le 12 settimane. Se guardiamo i dati, dallo 0,5 dell'81 siamo arrivati al 5%. Questi sono i dati delle cosiddette leggi razziali di una volta sui disabili che venivano mandati nei campi di concentramento. Oggi 5.000 bambini all'anno disabili. Mamma mia! Che c'entrano i campi di concentramento, dai su, ma chi è questo qua? Giuseppe Noia. Pazzo scatenato. È un medico, capito, che parla di campi di concentramento uguali all'aborto, basta! Quando sento il traffico divento pazzo! La Zanzara. Fatemi capire, Se mi masturbo è peccato, se vado a mignotte è sfruttamento, se mi faccio l'amante da bastardo, se vado a trans sono un degenerato, ma se guardi porno è da deviato. Ma allora, cosa minchia mi rimane di depravato da fare? Ah sì, ascoltare la zanzara. Niente, io non mi faccio le canne, non tradisco mia moglie, bevo champagne, non eccessivamente, non fumo, educo mia figlia e quando ho finito torno a casa, lavoro tanto, bah, assolutamente normale. Sto tornando a casa dalla mia ragazza, sto ascoltando il podcast della zanzara, vedo semaforo verde, diventa arancione, rallento, mi fermo, un minuto in più di zanzara. Allora ragazzi, c'è quel tizio che si è dimesso da quell'ufficio antidiscriminazione. Andrebbe cancellato quell'ufficio, sai? L'ufficio antidiscriminazione di Palazzo Chigi. Cancellato. A questa conclusione. Lo sai che ci ha rotti coglioni anche a noi con delle lettere assurde? Cioè, passano il loro tempo, passano il loro tempo a ricevere proteste da chi che sia e a mandare lettere di ammonimento e a distribuire soldi anche ad amici. Il problema quello hanno sbagliato, ma non allora, è che l'ufficio in sé è sbagliato. Inutile, inutile. Ci sono le leggi, c'è la polizia, ci sono i carabinieri, sì, ci sono i magistrati. Che sia un ente l'ufficio antidiscriminazione di Palazzo Chigi va tolto, cancellato come ente inutile. Tutti i dipendenti ricollocati da altre importante parti. Importante non finanziare amici degli amici. E soprattutto perché deve distribuire finanziamenti? Perché dare finanziamenti ai club? Cioè, se uno ha un club omosessuale, va benissimo, per carità. Cioè, tu puoi fare quello che vuoi. No, ma anche perché a questo punto andrebbe finanziata anche la zanzara con tutta la propaganda omosex che viene fatta. Assolutamente. Si potrebbe chiedere, magari con l'aiuto anche del direttore napoletano, no, fare una ma bella non vogliamo lettera. Chiedere sì, nessun soldo, noi poi fare ci accusano. Una bella lettera al governo, no, come si chiama qui, all'ufficio. Sì, una bella lettera. Sì, sì. Vergata dal direttore sì. Roberto Napoletano, vergata sì. in carta intestata. Sì. Non dire vergata, non dire parolacce, vergata, no, vergata vuol dire. Beh, sì, ma è equivoca sì. come cosa. No, comunque, equivoca, manco per niente. Vabbè, siglata, sì. suggellata dal direttore in Napoletano. Si chiede per... È scritto in piccolo piccolo Barisoni, anche sì. lo chiamo. Barisoni, ottimo. Sì. Mettiamo questi due grandi nomi, cioè la zanzara, in virtù della propaganda omosex che da 6 anni a questa parte sì, viene certo. messa in onda tutti i giorni dalle finanziamento pubblico dalle 18:30 alle ore 20:50. Chiede per questo motivo, sai, PQV 100.000 per questo, 100.000 euro, 50 per Parenzo, 50 per Cruciani, sì. Per appunto rimborsi, spese, propaganda omosex. Allora io dico una cosa: sei d'accordo? Questi, assolutamente, ecco, questi, club, questi club gay guadagnano con gli ingressi e con le saune, sì, con i massaggi, con le bibite, con i bar, eccetera, eccetera, sì. E guadagnano anche in maniera, come dire, no, cospicua, tra l'altro facendo finta di essere associazioni. E fottono gli altri esercizi commerciali che non sono associazioni. Ma lasciamo perdere questo Beh, aspetto. Questa è una vecchia storia. Sì, è una vecchia storia. Perché devono prendere anche il finanziamento pubblico? Voglio organizzare delle cose culturali? Se le organizzino da loro, se le organizzino da soli, con i soldi che guadagnano. Perché devono chiedere soldi a me per organizzare il telefono antiviolenza? Poi voglio vedere quanto funziona questo telefono antiviolenza. Il telefono anti... Se uno subisce una violenza va dalla polizia. Cioè non è che va al telefono all'Andos. Ragazzi, ma di che parliamo? Cioè un frocio che viene picchiato, un gay che viene picchiato, un gay che viene discriminato. Chiamo l'Andos? No, chiamo la polizia. Cioè, ma di che parliamo? Perché devo ragazzi, dai, insomma, sono follie, sono cose fatte apposta per intascare dei quattrini, cioè per distribuire denaro pubblico, basta. Questo Spano, che era il direttore di questo inutile ufficio che si chiama UNAR, inutile ufficio che si chiama UNAR, di cui avete sentito parlare nei giorni scorsi durante i servizi dell'Iene, pare che mi hanno detto una cosa che va confermata, circa 200.000 l'anno, 200.000 euro l'anno per dare soldi agli altri, per distribuire alla fine per che cosa? Sì, per monitorare le discriminazioni in Italia? No! Anche per distribuire quattrini, per distribuire denaro pubblico a varie associazioni. 200.000, 200.000 ragazzi all'anno, pare, dicono, da confermare. Sentiamolo, dice che si è dimesso perché si è spento l'entusiasmo. No, perché non ti saresti dimesso, ti hanno pizzicato. Ti hanno pizzicato con le mani sulla marmellade, come si dice. Non è che si è spento l'entusiasmo, dai. Mi sono dimesso e oggi ho riflettuto su questa cosa perché non credo che ci sia nessuna responsabilità, in quanto la procedura che abbiamo fatto è una procedura corretta. E come si è dimesso allora? Perché per fare questo lavoro serve entusiasmo, serve determinazione e tutta sta vicenda mi aveva un po' spento. Capito? Hai capito? Spa? Dai su, a cappottino arancione. Io per carità va bene. potrei essere anche una persona elegante, colto, quello che ti pare, però non ti sei dimesso perché mancava l'entusiasmo, dai, su. Pietro, provincia di Milano, apriamo le Cataratte, dai. Chi c'è? Che è successo? Che è successo? Non c'è più. Che è successo? Andiamo, dai. Claudio, La Spezia, dai. Claudio. Sì, eccomi. Dimmi, dimmi, amore, dimmi. Niente, io sono stato escluso da Facebook, bloccato da Facebook perché... Perché sei in viva voce? Perché? Perché? Eccomi. Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Okay. Me lo fai apposta, me lo fai, me lo fai apposta. 20 minuti di attesa, Dai, dimmi, dimmi. No, me l'hai fatto bene. Ti sei tolto o no? Ti sei tolto o no? Mi hanno tolto da Facebook. No, perché... il viva voce, non me ne frega un cazzo che ti hanno tolto da Facebook. Benissimo, dai. Dai, dimmi. Ecco, allora, niente, io ho commentato sul famoso servizio delle Iene che siamo in mano ai froci. Cioè, tu hai scritto così, siamo in mano e te l'ho buttato fuori. Vabbè, fattene una ragione. Quelli hanno... A me questa discussione su Facebook che butta fuori le persone, blocca le persone, tu lo sai che alla fine non me ne frega nulla. Ma ognuno ha la politica che ha. Cioè, quelli buttano fuori in maniera contraddittoria, alcune volte sospendono i profili per un motivo o per l'altro. Ma non capisco la differenza tra la parola cretino e socio. Sì, dico, sì, ma sono cose. Ma lo sai che a me questo Zuckerberg che mi sta pure sui coglioni, adesso si vuole candidare contro Trump. Prenditore illuminato. Faccia quello che vuoi. Uno vuoi stare su Facebook, affidati alle follie alle cose strane di Zuckerberg. Io ho tutto il rispetto delle persone omosessuali, perché fanno quelle che fanno. Allora, perché è scritto siamo in mano ai froci? Perché è scritto siamo in mano ai froci? Perché quello lì è il presidente di un'associazione da me pagata, io sono italiano. Tu non vuoi dare soldi? Non vuoi dare soldi? È degno di rispetto. Il rispetto lo do a chi conduce una. Sì, ma d'accordo, Claudio. Tu vuoi dare? Non vuoi dare soldi ad associazioni dove dentro si fa il glory hall, le ammucchiate? Quello che fanno lì dentro non mi riguarda. E allora? Non mi interessa. Però non vuoi dare soldi? Farlo, ma è ovvio che quei soldi lì vengono dalle mie tasche. Lui sta facendo. Ho capito benissimo. Francesco dalla provincia di Brindisi. Vai, Francesco. Pronto? Dimmi, Francesco, dimmi. Cruciani, allora, ieri ho provato a chiamare... Vai, veloce, veloce, dimmi. Veloce un cazzo, ho aspettato 20 minuti, Cruciani. Allora ti richiamo dopo, però accennami, allora, accennami, accennami, amore mio, ieri, tesoro. Ieri tu hai fatto delle dichiarazioni. Sì, sei un po' femmina dentro tu o no? No, non sono per niente femmina, Cruciani. Sei sicuro? Ieri... Guarda che ognuno di noi ha una sua mi parte... Mi parlare? Hai una parte femminile o no? Sei sicuro? Ma che coglione allora, Cruciani. Ma hai una parte femminile dentro di te o no? Oh. Ma che cazzo di domanda fai, Cruciani? Ma ognuno di noi dentro di sé ha una parte femminile. Io non ce l'ho la parte femminile. Secondo me sì. Secondo me sì. Secondo me sì. Comunque tu, per cioè, tornare al discorso, guarda bene dentro te stesso. Incredibile. Guarda bene dentro te stesso e troverai una parte frocia. Ti posso assicurare? È così. Sei tu il frocio, Cruciani. Sei tu il frocio. Tra un quarto d'ora tu ti richiamo. Tu è quel nano malefico di Parenzo. Analizzati per un quarto d'ora. Poi ti richiamo e guarda e dentro di te scoprirai una parte tu estremamente frocia. Estremamente frocia. Guardati dentro. Guardati bene. Non troverai guardati nulla perché non hai niente. Sei vuoto. Lasciati un Parenzo e alla defecarsi non ci penso. La Zanzara. Semplicissimo. Se volete insultare Mauro Mantova che è passato a Radio Padania, o volete dire in quali piazzole di sosta ci sono i gay, o se vi garba volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800 24 0024. Se invece volete parlare dei vostri glory hole, o volete dire come si fa a scopare senza spargere il seme, o se vi garba volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393 71 71 701. Siamo al super top. Ah, andiamo avanti. Allora, Parenzo, fra poco ti farò sentire un audio abbastanza scioccante. Sì. Che viene da Follonica. Intanto quel demente continua a dare il numero per telefonare. Chi? Demente? No, di chi? Quel demente che dice se quello volete, è un genio. Quello è un genio. Quello è un genio. Allora, e succede a Follonica. Follonica è una località... Provincia di Grosseto, certo, sì, la gara è una di mare, turistica. Una nomade, una rom, una signora rom, sì, viene sorpresa a frugare tra i rifiuti del Lidl. Sai che cos'è il Lidl, no? Sì, come no. È quella catena di supermercati, diciamo super discount, economici, diciamo, super sì, economici. Sì, sì. Tedeschi credo che siano. Signori di Lidl. E i dipendenti la chiudono in gabbia. cioè i dipendenti del Lidl hanno chiuso in gabbia questa signora. Beh, hanno chiuso in una gabbia, ma tu devi sentire la reazione, la reazione di questa signora rom che stava lì frugando tra i rifiuti eccetera, eccetera. È stata praticamente chiusa. Ha cominciato ad urlare in maniera pazzesca. Io non so se sia vero questo video, penso di sì, perché le facce mi sembrano vere, non possono essere degli attori. Ora, i dipendenti della Lidl, uno dei dipendenti evidentemente ha messo su Facebook questo video che sta diventando super, super virale, ma al di là di questo è scioccato perché comincia ad urlare come una matta questa roba, questa signora chiusa nella gabbia perché frugava. Hanno fatto bene o hanno fatto male, signori? Sondaggio, cos'è? Di Libero questo sondaggio? No, della Zanzara. Hanno fatto bene i dipendenti della Lidl a chiudere in una gabbia la signora rom perché frugava nei rifiuti, cioè, oppure sono degli sporchi razzisti? Ma non sono sporchi oppure razzisti, oppure sono dei criminali, oppure sono dei sadici? Questa è la domanda. B e C, criminali e sadici. La B grande inchiesta della Zanzara. Vedrai di stasera. Che adesso chiameranno all'800-2400. Sì, chiameranno, dicendo allora, no, ma non va solo rinchiusa, le vanno anche lanciate le noccioline, no, le va anche buttato del piscio, le va anche buttato dell'acqua fredda mentre sì, è chiusa Francesco, nella gabbia. Francesco? Francesco? No. Francesco? Oh! Francesco? Ascolta, io non voglio litigare, io ti sì, ma tu hai dire capito se la tua, se hai una parte femminile, hai capito? No? Ma è incredibile. No, no, ma tu hai capito se dentro di te hai una parte femminile un po' frocia, un po' femmina? Ti ho detto assolutamente no. Ma guarda no, bene, Vitale. Guarda bene. Ho visto bene, adesso mi guarda, fai parlare gentilmente. Secondo me a te un po' piace l'uccello, un po', solo un po', solo un po', o no? A tutti. Ma a te piace l'uccello? No, ma c'è un'attrazione. È quel nano malefico. Ma perché c'entra il nano adesso? Cosa c'entra lui adesso? Scusa, stava lì tranquillo a parlare in silenzio di fronte. Non l'ho ancora insultato. E comunque io mi sono reso conto che tu, in base alle dichiarazioni che ho fatto ieri, alle dichiarazioni che sono politico. Tu sei solo uno sporcaccione. Ma perché cosa questo è vero? Su questo ragione. Hai dichiarato che quando vai a urinare, quando vai a pisciare, tu non ti lavi le mani. Beh, non ho detto che il 50% delle volte mi succede di non lavare le mani, ma semplicemente per fretta, per dimenticanza. Hai dichiarato anche che se una donna esce insieme a te, una ragazza esce insieme a te, si porta appresso la mucchina, tu la mandi a fare in culo. Vabbè, adesso non è sempre così. Sto dicendo che mi dà molto fastidio una persona che a un certo punto, così a tavolo, tira fuori la mucchina e si lava le mani con la mucchina. Devo dire che è una cosa terribile. Cioè, a me l'ossessione per la pulizia mi dà molto fastidio. Tu quando vai a cagare, te lo fai il bidet. Te lo fai il bidet quando vado a casa? Ma sei impazzito? Rispondimi. Quando è che mi farei a cagare? Beh, sì, certo, quello lo faccio, non c'è dubbio. Ah, lo fai? Beh, certo, quello è normale, sì. No, cioè, perché ho dei dubbi in base alle dichiarazioni adesso, che hai fatto ieri. Amico mio, adesso le dichiarazioni, non esageriamo, caro Parezzo. Le non capisco perché questa roba dovrebbe essere di qualche interesse. Uno sporcaccione come te le può fare queste dichiarazioni. Però tu hai capito la parte femminile frocia che è dentro di te? L'hai capita bene, sì? No, la parte femminile frocia ce l'hai tu, no, e quel coglione guarda, che sta insieme a te. Ma perché c'entra che è stato in silenzio? Ma perché mi provoca? Ma io non ho capito. Che ha detto addirittura che Roma, appena detto che Roma è quello stadio. Un'ottima cosa. Ma perché qual ottimo è il problema? Era. Abiti a Brindisi, che cazzo ne sai? Tu sei in provincia di Brindisi, scusami. No, io ne so perché. Ma Roma, che ne sai che se abiti in provincia Sgarbi di Brindisi? Dove abiti? Io seguo molto. Vabbè, ma Sgarbi che c'è? Sgarbi è a favore. No, è contro. Sgarbi ha dichiarato che Roma è fatta strutturalmente orizzontale. Ma che c'entra adesso? Quindi come il suo cervello? Non ha detto questo. Anche lei ha un neurone orizzontale, uno solo. Poi nella mia città, stai parlando del Brindisi. Ma perché Giacchè? Non abbiamo mai parlato di Brindisi. Ho mandato messaggi a Sgarbi. Si l'aveva denunciata per stalkeraggio. Ma che cosa hai mandato a Sgarbi? Messaggi? No, io solamente una volta ho mandato un messaggio, ho visto che ha visualizzato e allora ha risposto, non glielo ho mandato più. E allora? Una volta che ha mandato il messaggio a Brindisi hanno fatto una cosa schifosissima. Hanno fatto a Brindisi? Dimmi. Tu sei mai venuto a Brindisi? Una volta, sì, una volta. Allora dimmi, cosa hanno fatto a Brindisi? Se mi fa parlare, sulla muraglia romana che hanno fatto sul porto di Brindisi. Sì, che è successo? Hanno fatto un buco, hanno rotto le mura. Glory hole, hanno fatto un glory hole pure là. No, vabbè, Glory Hall. Non voglio più parlare. Non voglio più parlare. Hanno fatto un Glory Hall pure al porto di Brindisi. Dai, non va bene. Questi froci sono comunque. Parenzo, no? Ma tu ti rendi conto che hanno fatto un Glory Hall al porto di Brindisi? Cioè, questo signore qua, Francesco, ci sta dicendo che hanno fatto un buco al porto di Brindisi. Hanno fatto un Glory Hall pure a Brindisi. Io non so come si fa. A me, sto Francesco, mi piace proprio. Ma lo stai dicendo tu? A me, questo qua sembra un disturbato. Hanno rotto. Ma non usare le cose. Stiamo parlando di cose. Cioè, non si possono utilizzare queste parolacce. Hanno rotto i Glory Hall, il buco, il porto di Brindisi. Ma non è che è sempre così la zanzara, scusami Francesco, non è sempre così. Ma stai parlando di cose da perversi. I buchi, il porto di Brindisi, i Glory Hall nel porto e il, quello rotto e la parola rotto, allora non si può. Ma la tua parte frocia in che cosa consiste? Guardala bene la ma parte frocia. Ma sei un coglio, tu c'è la parte frocia. Guardala bene la parte frocia. Perché così agitato? Guarda in culo tu e quel nano malefico. Ancora. Ma io non gli ho detto niente ancora. Guardala bene, animale, ma io ancora non ti ho neanche boh valutato, capito? Cioè sono in silenzio perché neanche considero la sua chiamata. Tu non devi parlare proprio perché sei un ignorante, Parenzo. Ma io infatti non considero la sua chiamata, neanche la considero. Cioè, per lei mi è già passato come acqua proprio. Tu consideri solamente i soldi che prendi, coglione. Ciao. Allora ragazzi, questo è il video di un supermercato Lidl dove una nomade sorpresa a frugare tra i rifiuti dai dipendenti viene chiusa in gabbia. Sentite, pazzesco. Le vedi? Non si può entrare nell'angolo rotture. Non si può entrare nell'angolo rotture della Lidl. Vieni! Non si può entrare nell'angolo rotto della Lidl. Così. Succede a Follonica, caro Parenzo. Mi pare di una gravità inaudita sentire questa signora. Dipendenti della Lidl pigliano per il culo una nomade chiudendola in gabbia. Spero che vengano indagati per sequestro di persona, perché tale sequestro di persona. Quella rubava. No, quella stava scartabellando tra i rifiuti, hai detto. Stava prendendo le cose. Comunque era in una zona non autorizzata. Chiusa in una gabbia. Si chiama a casa mia sequestro di persona, visto che non costituiva un pericolo, non stava derubando le casse per fortuna della Lidl. Quindi questi qui che ridano e sghignazzano con una persona in carne e ossa dentro una gabbia, sempre se è vero, prendendola in giro, secondo me come minimo vanno indagati per sequestro di persona. E quella se dovesse essere accertata il suo intento di rubare, ma tu mi hai detto che stava ruspando tra i rifiuti, che non è un reato ruspare tra i rifiuti, appunto. Io mi auguro che quelle persone vengano indagate e messe a processo. Allora, dove andiamo? Danilo, provincia di Lecce, vai. Danilo, provincia di Lecce. Pronto, Cruciani? Dimmi, Dani. Ciao, Cruciani. Allora, a parte che io non fumavo le canne da 2 anni e per sentire voi due oggi ho ricominciato. Bene, molto bene. Ma non t'avevo chiamato. Comunque nel questo. Gabbiotto dei rifiuti era, nel gabbiotto. Beh, sai che c'è una gabbia dei rifiuti, no? Era là dentro, l'hanno chiusa nel gabbiotto e poi urlavano, la pigliavano per il culo la signora a Rom. La quale urlava come, devo dire, sembrava Richard Benson a un certo punto, Era molto poveretta, ma voglio dire, adesso sì, per carità era chiusa, però non è che adesso, non è che la stavano torturando. No, quindi va bene anche questo. No, non va bene, ma stavano particolare anche tu. Ma quindi... poi l'avranno rilasciata. Era un gioco, stava là dentro. Scartando. Era un gioco. Ma penso, dici comunque, per carità, un gioco. Io non lo farei. Rinchiudere io non in una farei. Gabbia una persona, mi pare che da come lo affronti, mi pare ma che perché sia farei, tutto lecito. Ma è un po' da ridere, dai. Una è che viene chiusa, sì. Cioè, rinchiudere una persona in una gabbia allora, è da ridere. Allora è razzismo? Allora vogliamo denunciare questi qua? Denunciarli? Ma non è razzismo, è sequestro di persona. Non è razzismo. Adesso lascia star che è rom. Può essere anche di Caltanissetta, può essere di Bergamo Alta. O può essere della Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Qualora, chissà perché era rom, però. Qualora, però, per qualora Salvini venisse chiuso in una gabbia e sbeffeggiato, diresti anche tu che... Direi anch'io che è un sequestro di persona. Vabbè, Danilo, che vuoi dire? Niente, volevo dire che se vi sembra normale che io mi sono dovuto fare l'amante perché la mia ragazza a tutti i costi che si doveva depilare. A tutti i costi. No, non ho capito, spiegami una cosa, Danilo. Adesso questo è interessante, ma interessante, abbiamo un'interruzione. Abbiamo un'interruzione. Cioè, tu meno praticamente male. Ti sei dovuto trovare un amante perché la tua ragazza si depila perché o non si depila? La mia ragazza si depila, e è messa com'era vergine, lei è molto santa su questo senso. E, cioè, non ho capito, aspetta, non ho capito sempre. Bene, però ce lo spiegherai dopo. Cioè, ma depilazione. No, anche, no, anche sì, anche sì, è interessante. Danilo dalla provincia di Lecce dice che si è dovuto trovare un amante, sostiene lui naturalmente, perché la sua ragazza si depila o no? Dimmi sì o no. Sì, lei si depila. E tu prima vuoi una non depilare? Vabbè, adesso, non mettiamo troppe cose insieme, le puttane, la depilazione. Cioè, aspetta un attimo. Adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Buonasera, io volevo proporre una grande inchiesta della Zanzara. Io ho la sensazione che il vecchio caro pelo di figa stia ritornando di moda. Mi emoziona questo ritorno, inteso come pelo di figa. Se Giuseppe un giorno dicesse la parola tenerezza, rimarrebbero tutti a bocca aperta. Buonasera. Dica. Io vorrei parlare di puttane. Danilo, arrivo, prima devo dire alcune cose. Caro David, caro David, caro David. Tu sei uno dei pochi che mi chiama Davide, perché in realtà tutti mi chiamano Parenzo. Comunque va bene. In che senso? Scusa, non ho capito. No, notavo questa cosa, se vuoi potremmo aprire una discussione. No, spesso meglio gli ascoltatori dicono Parenzo, Parenzo, allora, tu sei l'unico che giustamente mi chiama. Per me è segno anche di una intimità. Comunque, c'è qualcuno che monta una cagnara. Dopo sei anni. C'è qualcuno che monta una cagnara sul fatto che una transessuale brasiliana, una certa Tiffany... Sì. Operata naturalmente con regolari documenti da femmina, da donna, sì, cioè sì. Si è trasformata da uomo in donna. Gioca nella Serie A di pallavolo italiana. Quindi è una signora? Sì, è stata presa dal Brasile e portata in Italia. Giocava prima in Belgio tra gli uomini, poi si è operata, è andata in Brasile, è diventata donna, eccetera. E alcune squadre che avversarie della squadra dove gioca lei, che credo che sia il Palmi in Calabria, e dicono che è una scorrettezza, dicono che non si può fare, dicono addirittura beh, adesso andiamo pure noi a prenderci dei due tre trans in Brasile. Ragazzi, di cosa vi lamentate? Non ho capito. Cioè, questa signora, questa transessuale è donna. Non è che essere donna transessuale significa che è più forte fisicamente. Certo, ha una struttura fisica che può favorire, però le cure ormonali che ha fatto, mi riferiscono, mi hanno detto oggi, possono indebolire, capito? La mia amica Efe Ball, sì, caro Parenzo, si esprime in questo modo, dice che invece è femmina, anzi no, dice che è maschio e dunque dovrebbe giocare tra i maschi, questa signora che si chiama Tiffany. Non ti emoziona questa storia del trans Tiffany? Guarda, che viene discriminato. È una discussione di cui non me ne frega un cazzo. No, vabbè, posso dai. Dirtelo. Ma con... è meglio discutere di Tiffany o di Orlando che si candida alla segreteria del Partito quella Democratico? Quella mi sembra una cosa interessante. Sai perché è interessante? A Orlando che si candida alla segreteria del PD è più interessante della storia del trans Tiffany, che qualcuno non vuole che giochi nel campionato femminile di volley. Sì, perché quella diventa una garanzia per tutta quella parte di ex di S. E questo dovrebbe essere interessante. È il garante garante di quella ma vecchia tradizione che affonda le sue radici nel PC, PDS, ma di che DS, parli? Ma non è un vero. Giovane garante di quella tradizione, no, in quanto Orlando viene da quella storia ma politica. Ma noi non ce ne frega un cazzo. Cioè non è un democristiano, non ce quindi ne frega è un'ottima nulla. Figura di garanzia. Non ce ne frega una nulla. Una figura in grado appunto di garantire quella comunità, perché alla fine discutiamo ma di questo. Ma non interessa cioè, nessuno. Il Partito Democratico ha fatto una fusione interrotta. Di cosa stiamo parlando? Mandami stiamo parlando. Mandami a Febalti, prego. In questo momento ho un cliente, comunque pallavolista dovrebbe giocare con gli uomini, geneticamente un uomo, come io sono un uomo comunque, molto effeminata, molto carina, molto femminile, molto bella, ma sempre un uomo geneticamente sono. Un bacio. Ah, un bacio, cara Efe, grazie, cara Efe, grazie del bacio. Vogliamo rimandare l'audio del Lidl di Follonica? Perché no, è ghiacciante, guarda che è impressionante. Allora, dentro, praticamente dentro la gabbia dei rifiuti, dentro la gabbia dei no, rifiuti, ma è una roba animale. Una rom rovista, una signora rom rovista tra i rifiuti, viene sorpresa dai dipendenti della Lidl di Follonica che la rinchiudono dentro e la fanno urlare come una matta. Le vedi? Non si può entrare nell'angolo rotture. Non si può entrare nell'angolo rotture della Lidl. Vieni! Non si può entrare nell'angolo rotto della Lidl. Senti? Allora, altra cosa che voglio dirvi prima di riaprire, come dire, le pazzesco, cataratte, prima dai, di aprire di nuovo le dighe delle... Diciamolo che è impressionante, che fa schifo, che ah, è una roba sì, dove un deve gioco, intervenire dai, ma quale gioco, ma come fai a giustificare una non roba sto giustificando simile? Ho detto che è un ma gioco, ma se dici che è un gioco sminuisci un atto di una gravità inaudita, rinchiudere una persona dentro una gabbia a vabbè, ridere, ma mica scherzarci... l'hanno tenuta dentro per tre ore, ma, dai. Che, ma allora vedi che lo giustifichi, ma è una cosa incredibile, ma dai. Sì, lo stai giustificando, è una cosa che mi fa un po' ridere per le urla, ma non fa ridere per niente, è una persona che hanno rinchiuso dentro una gabbia, una roba totalmente inumana, una follia. È di nuovo dalla parte dei rom. È sempre dalla parte dei ma rom. No, ma no, non sapevo, dai. Non mi interessa scherzo, se è rom. Lo direi anche se fosse anche storace. Se ci fosse storace, ma che c'entra storace adesso? Dico scusa, per dire che se storace fosse rinchiuso in una gabbia e della gente intorno, direi che è inumano. Anche se è storace, pensa un po' come sto. Ma anche se è storace, no. Che ti ha fatto storace? Per scusa, dire che anche uno come storace, che persone lontane da me, voglio dire. Non è, allora, che, non è che i rom Silvio siano vicini, Berlusconi ma... si è fatto vivo, cari amici. Ho deciso di prestarmi a quest'asta di beneficenza a sostegno delle popolazioni terremotate dell'Abruzzo. Penso che ognuno di noi debba fare tutto quanto nelle proprie possibilità per aiutare i nostri concittadini in difficoltà e a volte si può essere utili anche con un gesto semplice. Sarò davvero felice di conoscere e di pranzare con un benefattore generoso e sensibile come il vincitore di questa gara, che spero verrà giudicato ad un prezzo molto alto dato che i fondi raccolti saranno devoluti alla Croce Rossa. E si è prestato Berlusconi ad un'asta per un pranzo esclusivo con lui di Charity Stars. Ora io dico una cosa a Berlusconi: se vuoi da 20.000 euro, adesso l'asta pare che sia arrivata già a 20.000 euro. Amico mio, pranzare con Berlusconi, per carità, va bene, 20.000 euro, 30.000, però daglieli tu direttamente a quel punto, no? Cioè, perché devi far spendere uno 30.000 euro? Daglieli tu direttamente, cioè non è che c'ha bisogno di fare le aste, di prestarsi a fare un'asta, signor Berlusconi. Se vuole dare 30.000 per i terremotati d'Abruzzo, va, o no? Sì. Allora Danilo, siamo a te, dai, vai, vai, sì. Danilo, vai, vai. Allora, la tua ragazza, io non ho capito bene, la tua ragazza si depila, allora, o no? Allora, la mia ragazza purtroppo tu te si sei fatto una canna oggi, mi sa. Sì, ti sei fatto una canna. Dopo due anni che non fumavo. Dopo, quando è oggi te la sei fatta? Sì, un'ora fa. Un'ora fa, due anni che non fumavi, invece ti sei fatto un canna. Vabbè, ma come stai adesso? Un po' sconvolto? Ah, molto rilassato, infatti è la prima volta che vi chiamo. Rilassato. Vabbè, Dani, allora, non ho capito, la tua ragazza si depila o no? Allora, la mia ragazza si depila totalmente, ha fatto pure il laser, purtroppo. Pure il laser è quello proprio da cui non, poi non si torna indietro, purtroppo. No, bravissimo. Assoluto. Sì, sì. Ecco, allora io... Sì. prima andavo a puttane perché avevo un lavoro che guadagnavo di più, adesso non guadagno un cazzo e quindi c'è una mia amica che è un po' cicciona, però c'ha il pelo e a me mi arrapa il pelo. Lorenzo, direi che è un discorso abbastanza interessante, diciamo, come analisi sociologica del paese, no? Cioè questo signore Danilo dalla provincia di Lecce dice... Signora. 27 anni. Vabbè, è sempre 27 anni. È interessato al pelo. Però la sua ragazza si depila, si è fatta addirittura il laser. Però tu vorresti lasciarla addirittura? Non la vuoi lasciare? Sì. No, assolutamente. Lei si è messa con me che era vergine addirittura, quindi vabbè, questo adesso sono cazzi tuoi, cioè, ho capito. Dunque tu però sei talmente attaccato, non la vuoi lasciare, però ti sei un po' crucciato dal fatto che questa signora, questa ragazza si è depilata totalmente. Amico mio, però sono problemi. Dovevate concordare questa cosa. Cioè dovevate fare un grande accordo, una grande intesa, una grande entente cordiale, come si dice, no? Una grande un gentleman agreement. Per dire, lei voleva andare a farsi il laser oppure l'ha fatto a tua insaputa il laser? No, me l'ha detto, io dicevo dai, no. Vedi che quando manca l'accordo, Parenzo, quando manca l'accordo in una coppia è drammatico. Enrica dalla provincia di Cuneo, dai. Notizie da Libero Quotidiano.it. Dunque, mettono in prima pagina la foto del signor Boeri, no? Tu sai, presidente, voi sapete, presidente dell'Inps, no? Il titolo, attendo perché poi uno dice le cose, no? Il titolo, Boeri, no? Dici, cazzo, Boeri, che ha fatto? Vergogna, virgola, spacciano nella villa dell'Inps. Boeri, com'è ridotto? E uno cosa pensa leggendo questa cosa? Che Boeri è uno spacciatore. Esatto, quindi uno apre e viene a scoprire che a Verona c'è una villa che in parte che è stata abbandonata tanti anni fa, che è in parte di proprietà dell'Istituto di Previdenza, no? Sì. Che è ridotta a un masso di muri e cancelli, tutto mezzo rotto, e che dentro ogni tanto c'è qualche spacciatore. Ma il titolo è, no? Sì. Foto di Boeri, dietro scritto esodati, eccetera. Sì. Vergogna, spacciano nella villa dell'Inps, Boeri, virgola, com'è ridotto. Ma che cazzo vuol dire? Ma tu ti rendi conto? Vabbè. Enrica, provincia di Cuneo. Libero Quotidiano, ottimo libro. Buonasera. Vabbè. Enrica, dimmi. Enrica. Buonasera, posso fare una proposta un po' sensata? Sì, dimmi. Volete o no far parlare le persone che hanno atteso a volte minuti sì, delle persone? Giusto. Sono persone stupide? No, ascoltale, anche loro hanno una storia da raccontare. Sì, perché la signora lei ha ragione. Perché dovete sempre interrompere, urlare? No, noi chiediamo umilmente scusa, signora Enrica. No, ma infatti non chiediamo. Non è chiedere scusa. Chiediamo a scopo preventivo. Fai parlare un attimo, poi parli. A scopo preventivo, chiediamo umilmente scusa. Ci sono delle persone che vogliono ascoltarvi, certo. È una vita che vi ascoltano tipo me. Sì. Però quando ci sono solo urla, signati, volgarità, insomma, non ma è più insopportabile. È una trasmissione molto volgare, signora. È insopportabile. Le voglio chiedere, signora, lei perché ascolta ancora questa trasmissione? Beh, io ascolto perché forse per affezione a Radio 24. No, ma signora, non ascolti più. Non ascolti a quest'ora. Ecco, mi dia retta. Però, quando finisce Barisoni, lei chiude. È dalle esperienze e dalle storie degli altri che si impara anche. Certo, non c'è dubbio. Signora, lei... E io ascolto anche la vostra trasmissione proprio perché non arrivo a certi livelli di estremismo, lei signora per caso sa questo per sapere cosa succede in questo mondo perché io vivo fuori dal mondo è fatto anche di queste cose signora scusi lei certo, per caso appunto vi ascolto per questo ma non così schignazzanti così urlati no per carità no parlare di sesso, è brutto signora di stampini di tutto ma vede però, che però senza arrivare agli estremisti Enrica scusi signora Enrica lei sa che cos'è il glory hall? No. Non sa cos'è il glory hall. Cos'è il blo? Glory hall. Dica con me, glory hall. No, non è una parolaccia, signora. Glory hall. Ma comunque non immagino cos'è. Cos'è? Glory hall. Vi lasci stare, signora. Hall in inglese significa buco. Hall. Capito? Hall, buco. Vabbè. Glory hall è il buco della gloria, come si può dire? Cioè, sì. Si infila una cosa dentro il buco e dall'altra parte ci lavorano sopra, insomma. È una pratica sessuale che è molto usata in alcuni locali gay di cui si è parlato molto. È una porcheria, signora mia. È un degrado culturale pazzesco. Comunque, comunque io si vede che non frequento quei locali dove questo non c'è dubbio. Ma no, lei ma si sentire quella canzoncina su Gloria Hall? A me, a me non, io non ho quelle curiosità. Lei non ha mai avuto ascoltare le esperienze di altri. Lei non ha mai avuto una esperienza lesbica, signora? No, no, perché no, però detto tra noi ho avuto attrazioni di donne, sì, però non ho mai voluto provare. Cioè la patata non le è mai piaciuta, la patata? Ma cioè non mi è mai piaciuta, mi è piaciuta la simpatia donna a donna, ma non, ma per amor di Dio, né la patata. Vabbè signora, una bella lesbicata ogni tanto poteva anche rivitalizzare. Perché devi dire così alla signora? Va bene, ognuno segue le sue cose. Grazie, un abbraccio Enrica, un abraccio, un bacio, un bacio con la lingua, un bacio con la lingua. Facciamoci una limonata, facciamoci una limonata. Ma sì, tra me e te un bacio con la lingua ci sto. Facciamoci una limonata. Quanti anni hai? Non te lo dico perché altrimenti mi rifiuterete. Non è detto. Lei non conosce la perversione di Cruciani. Non è detto. Facciamoci una bella limonata. Una bella limonata dura, come si dice in gergo. Una limonata dura. Ecco, finalmente vi ho sentiti parlare con un po' di tranquillità. Tranquillità. Ha detto delle porcherie inaudite. La signora mia, magari tranquillità. Quello lì dice delle porcherie inaudite. Limoniamo per telefono. Una bella. Sì, va bene, tiri fuori una buona spremuta al limone. Ma dove vogliamo andare? Per favore. Ma per arrivederci, signora. Buonasera. You're getting Allora, io mi sono chiesto, caro David, dove è finita Annarella in questo periodo? Me l'hanno chiesto molte persone, cioè c'è un casino politico, il Partito Democratico. E abbiamo scoperto, l'abbiamo chiamata ieri, vi dico subito questo, ragazzi, questa telefonata era stata realizzata nella giornata di ieri. Abbiamo scoperto che la signora Annarella ha avuto un ictus. Dunque, la cosa è questa, Annarella. Con l'ictus, però scatenata sul Partito Democratico, caro Parenzo, scatenata. Sentite, il ritorno di Annarella alla Zanzara, scatenata contro, dice che tornerà davanti al Parlamento, davanti alla sede del PD a dare battaglia, non si capisce contro chi. Però forse qualche nome lo fa, se non ricordo male da ieri, o no, Parenzo? Mi sembra di sì. Mi sembra. Pronto? Annare! Che sei quello della? Da quello della de dove? So Giuseppe. Come stai? Come sì, stai, cara? Ho aspettato la televisione. Ma come va? Tira campata. Ma come stai? A letto? Sì. Ma che t'è preso? Ha preso l'ictus. Ma non te vedo mai in giro, non te vedo più, ormai non esci più da casa. No, non mi vedi perché sono stata male. Ma dov'hai? Stai tranquilla che te pian coccolone davanti alla camera, davanti a... Ma ho capito, amica mia, poi ti prende male davanti alla sede del PD là a Nazareno, davanti... Ah, visto oggi che casino che hanno fatto, di portarci da loro, che cazzo vanno quell'altro? Sono diventati tutti matti. Ma dimmi una cosa, cominciando ma... da Bezzani, da Speranza, da quel porco di D'Alema che è il fiore da mignotta. Ma perché? Che ha fatto D'Alema? Non lo posso vedere, fatti i cazzi tu, ha sinistra. Ma scusa un attimo, perché tu sei contro la scissione, questi qua che se ne vogliono andare? Ma se ne devono andare subito, D'Alema. Ah, tu dici che è meglio che se ne vanno questi qua? No, questi qua, D'Alema. Vabbè, ma anche Bersani. Bersani e Speranza. Se ne devono... E Cuperlo, che gli ho dato pure il voto. E noi ce racconto, i mortacci tua. Ma veramente Cuperlo resta nel PD, Resta. E non mi frega niente, sei stato al culo. Vabbè, ma adesso che fai tu ancora con sto PD? Come lo vedi sto PD? Quelli che se ne vanno, Emiliano che resta. Emiliano, che ne pensi? Emiliano è il fiore della mignotta. Pure lui. Pure. Guarda, era tanto bravo, c'ha un odio verso Renzi. Io non so, che deve fare questo poraccio? Che ha trovato i buchi e tutto quello che ha trovato. Per cui tu sei dalla parte di Renzi? Ma che deve fare? Tu sei dalla parte di Renzi? Ma io sempre con Renzi, con Renzi, con Renzi. Ma morì a massa di tutti. E li becco uno a uno. Uno a uno. E Gentiloni? No, quello è bravo. È di una famiglia per bene e bravo. Bravo, e bravo. Tutto quanto. Tu che eri dalla parte di Bersani? Morì ammazzato pure a lui. Pure a lui? Ma perché? Pensa che quando è stato male, che l'hanno operato al cervello, ho pure telefonato a casa e all'ospedale. E ci hai parlato? Sì. E allora? Ho parlato pure con voi. E adesso? Adesso basta fanculo. Ma perché? Pure lui. Speranza, che vuole quel rincoglionito? Ma è rincoglionito. Ma che vuole Speranza? Che fa? Speranza, se ne vuole... Per ammazzarli da figli e da morti. Se ne vuole Annà, se ne vogliono Annà, vogliono distruggere il Partito Democratico, vogliono lasciare... No, non distruggeranno mai. Vabbè. Non ci riescono. Ciao Anna Re, ciao, ciao. Ciao. Stai bene, mi raccomando. Ciao. Silenzio la vecchia! Ragazzi, se memoria Annarella è come no, ho sentita male io. Ho voluto raccogliere le ultime sue impressioni sul Partito Democratico. Spero che, no, spero non siano le ultime. Ma insomma, si vede che c'ha una voce, no? Cioè, l'ictus, ragazzi, ho voluto raccogliere proprio le ultime. Spero di no, ma importante avere le ultime testimonianze. Ce l'avevo un po' con tutti, diciamo. Sì, no? Molto renziana, devo dire, la signora Annarella. Finisco di masturbarmi, ma arriva la mia ragazza a casa e ha voglia di scopare. Iniziamo dopo mezz'ora che non vengo. Ma amore, ma come mai non vieni? E allora tac, perché me l'ha detto il rabbino alla zanzara. Dopo aver ascoltato la Lectio Magistralis di Franco Trentalance, anche io faccio la pipì a scatti. La faccio e la tengo, la faccio e la tengo, per allenare i muscoli pubici. Naturalmente la faccio nel lavandino. Che pisciata! Parenzo, pure io vado a puttane, una botte via, che goduria. Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo. Siamo il top, siamo il top, siamo il top. Ma va suca. La zanzara. Cruciani, dia quel coglione che ha chiamato prima senza sapere niente di immunologia e di HIV, che io sono frocio, sono fidanzato da 3 anni, non tocco un altro ragazzo da 3 anni e porca puttana, quanto mi piacerebbe che quello che ha detto fosse vero. Sono gay e trombo quanto cazzo mi pare. Ciao De Mari! Parenzo, parli bene tu col culo caldo, eh? Problemi loro, sono froci, problemi loro. Ma la sbrigo così, sennò mi attaccano da tutte le parti. Allora, l'angolo rotture, mi dicono, quello del video di Lidl, è un'area del PDV, che cazzo è? Del supermercato, evidentemente, dove finiscono tutti, no, della zona rifiuti, dove finiscono tutti i prodotti del negozio non più vendibili. Appunto. Per motivi svariati, rotture, prodotti scaduti. Pazzesco, eccetera eccetera. Capito. L'anticamera della pattumiera, ecco. Cioè, questo è il motivo per cui l'anticamera hanno della pattumiera. La signora, la ragazza stava rovistando là dentro, stava prendendosi delle cose da mangiare in scarti. Cose che sarebbero di via poco, ragazzi, l'hanno chiusa là dentro e quella urlava. E fatemi sentire l'urlo della Roma, l'hanno buttata dentro una gabbia. Io mi auguro che queste persone vengano al più presto a identificate, indagate per sequestro di persona e maltrattamenti alle persone. Ma vogliamo fare una telefonatina a Lidl? Che dici? Ci dovrebbe fare una telefonatina. No, chiude alle 10, adesso vediamo. Chiama. Fammi sentire le urla, ti prego. Mi piacciono molto il modo in cui urlava. È da Benson, quasi. È da sadico. No, ma è bellissimo l'urlo della Rom imprigionata. No, beh, è una vergogna. Lo trovo meraviglioso. È brutto. No, ma è bello. È ragazzi, inumano. Non è finita tragicamente questa storia qui. È come un gioco. Ma è tragica la storia, invece. Vabbè, non è un gioco per niente. Ma non è un gioco. Ma sì, non vabbè. Non si può ritenere un gioco un atto così grave. Non è vabbè, un gioco. Dai. Le vedi? Non si può entrare nell'angolo rotture. Non si può entrare nell'angolo rotture della Lidl. Come angolo rottura, eh? A Lidl, rispondete, su. Dai. Centralino della Lidl, rispondi? Centralino della Lidl. Dove è successa una cosa gravissima, secondo Parenzo. Hanno rinchiuso una rom in gabbia. Spero anche secondo tanti altri. Una rom in gabbia. Bah. Enrico Mantova, dai. Enrico. Siamo. Vai, dimmi. Mi sentite? No. Volevo chiedere al dottor Parenzo, buonasera. Sì, vai. Io vai. Ho depositato la mia quarta denuncia per furto da parte di rom. Allora, PDV sì. È punto di vendita, eh. Punto di vendita, dai, forza. La mia denuncia? Sì. Ok, 3 volte in macchina e l'ultima volta in casa. In casa hanno pestato merda fuori e mi hanno pestato sui divani, mi ha fatto un disastro. Sì. Dunque, cosa c'è con dunque, questa qui chiusa in gabbia? Come fa una persona a difendere a spada tratta una razza non difende... che parte cosa da c'entra quando ha 6 anni, questo episodio? Parenzo. Cosa c'entra questo episodio con la disumanità c'entra. Con la quale è stata trattata una persona persone. Che stava rovistando tra i rifiuti? Cosa c'entra rinchiuderla in gabbia? È una casa a rubare questa persona, molto probabilmente. Ma è il fatto che non riescono a farsi voler bene, perché cioè ormai... l'unica cosa che fanno, rubano casa. Cioè ormai si è superato qualunque livello di guardia proprio. Sto parlando di un episodio specifico, non di quei criminali che sono venuti a casa sua. Sto parlando di una signora che stava rovistando tra i rifiuti, è stata presa e chiusa in gabbia e sbeffeggiata. Sì, lui sta dicendo che lui sta dicendo una cazzata, perché stiamo parlando di questo, lui non sta di ben dicendo altro. Un'altra cosa. Lui sta dicendo una cosa che purtroppo, non c'entra niente con l'episodio. Che purtroppo la fama ma dei rom, la non fama c'entra dei rom. Niente, la fava, la fama, non c'entra niente. Però è così. Ma non è così un cavolo, cioè, vanno le cose vanno contestate. Le purtroppo ma cazzo Parenzo, quanti rom vedi che vanno a lavorare a timbrare il cartellino la mattina, porca troia. Purtroppo no, però scusami, Parenzo, però scusami un attimo, la cosa che vuole dire Enrico ma è molto non mi interessa, semplice. Ma siamo dalla vostra parte. No, ma è roba molto semplice quello che vuole dire Enrico. Enrico vuole dire che purtroppo quel video lì, quelle immagini per chi le ha viste, quelle voci che invece avete sentito qui alla radio, che vi abbiamo proposto 2-3 volte, spero che siano vere a questo punto, perché se fossero false abbiamo discusso per mezz'ora del nulla, ma io l'ho detto all'inizio, speriamo siano vere, di una rom messa praticamente chiusa in una gabbia da questi dipendenti della Lidl di Follonica, perché scoperta lì mentre rubava, non riescono non rubava purtroppo, intanto, che quello non si sa, no, purtroppo hai detto stava prendendo dei rifiuti, dicono non riesce ad intenerirti questa cosa, purtroppo essendo una signora perché siete delle bestie, perché sì, delle purtroppo bestie. Ma io lo dico perché purtroppo ormai c'è un livello bestiale di umanità, ormai tu è sei bestiale. Intenerito Enrico, sei intenerito dalla signora ma rom, ma cazzo, io gli faccio fare la fine che fanno le nutrie in gabbia quella gente lì, cioè le nutrie in gabbia le ammazzano, però cioè, anche se non ruba vaffanculo, cioè per il fatto stesso di essere rom, anche se la signora nel merito non rubava, merita questo. Questo state dicendo, ma no, è incredibile. Ma non sono a questo punto, però capisci. Ma come che non detto, sono? L'ha detto. Sono famosi. Ma non sono. Ma la vogliamo smettere di parlare? Parliamo del caso specifico. Non possiamo ogni volta dire sono così, perché altrimenti io posso dire che lei è uno stronzo. Ma lei magari nella vita normale non è uno stronzo. Nel caso specifico in cui lei analizza questa cosa, potrei dire che è uno stronzo. Ma non posso desumere da questo che in tutte le cose della sua vita lei è uno stronzo. I suoi familiari sono degli stronzi. No, ma dillo pure, dillo pure. No, non mi permetterei mai di dire che lei è uno stronzo. Posso dire che lei è uno stronzo nell'analisi del caso in oggetto, non in generale. Non è che lei dalle 8 di mattina alle 9 di sera è uno stronzo. Nel caso specifico in cui lei analizza il caso della signora chiusa in gabbia, è uno stronzo. È sicuramente uno stronzo, ma non posso dire che lei è stronzo tutti gli altri 364 giorni dell'anno. Però tu stai ridendo, però Enrico, per questa cosa lei è sicuramente uno stronzo. Però Enrico ha detto una cosa gravissima prima, e ha detto lasciamoli dentro le gabbie e diamogli giù, questo ha detto adesso tra le righe. Ma sì. Si riproducono come i ratti quella gente lì, come i ratti. Lascerò fanculo, andassero. Antonio, provincia di Latina, vai. devo desumere che lei è in generale uno stronzo. Antonio, provincia di Latina, dai. Oh. Antonio, sei tu, sì, dalla provincia di Latina, non è che c'è un livello di barbarie. Grazie mille, un minuto. Buonasera a tutti. Dimmi. Allora, io innanzitutto voglio dire, se mi dà un secondo. Sì, però io devi parlare più forte, non, preferibilmente non all'auricolare, non col via voce, okay. Altrimenti mi incazzo e ti mando a fare in culo, vai. Ecco, ok, tolgo l'auricolare. No, oh, mamma, allora, Cristiani, buonasera. Grazie, io voglio solo un secondo, io non sono un razzista, no. Però non sopporto questi rom che si attaccano alla luce, sì, che si prendono l'acqua. E dunque? Io pago tutto, mi fermano i carabinieri, mi fanno la multa. E dunque ci hanno rotto le scatole. Se io italiano devo rispettare le regole. Hanno fatto bene a rinchiuderle dentro la gabbia quella là? Guarda, no, perché alla fine non è disumano. Però posso capire anche. Aspetta, no, non è disumano chiudere una persona dentro la gabbia. Vabbè, ma non è che però l'hanno dentro la gabbia 10 minuti avranno tenuto, mica hanno tenuto. Sì, ma vabbè, è chiaro. Però ti voglio dire, alla fine, se io devo rispettare le regole. Ma se tu stai in una zona dove non stai, probabilmente quelli non hanno violato nessuna regola chiudendola in gabbia, scusami, cioè, non è che hanno, probabilmente hanno visto una, certo, si sono accorti che non faceva niente perché altrimenti non ridevano, ma hanno chiuso la gabbia la signora Roma, la quale urlava ma evidentemente lì ci vanno tutte le sere, quindi Simone, provincia di Firenze, Simone, provincia di Firenze, vai Simone, vai. Oh, Simone. Simone, pronto? Ma che stai a fare? Una canna? Che stai a fare? Sì, io? Stai a rollare una canna? Ma che magari, sono qui a cucinare. Allora dimmi tutto. No, dimmi tutto un cazzo, hai chiamato tu, ma che vuoi? Cioè... Ah, allora no, perché tu mi hai preso... Ah sì, per quella tu stai Cruciani. Sono Cruciani, ma con chi stai parlando, scusi, in contemporanea, con altre quattro persone? No, cani qui dietro, mi sto preparando a mangiare. A chi stai preparando da mangiare? Parla più forte, sì. Ai Doberman. I Doberman, quanti ce n'hai dei Doberman? Tre Doberman. Vabbè, di che vuoi parlare, Simone? Che stai preparando per i Doberman? Tre Doberman. Mamma mia, che paura. Perché no, la paura era per quella... Chi? Ah. Chi ce la deve la paura? Ah, non si sente un cazzo, sì, ragazzi. Simo, dai, parla bene, su. Oh, ci sto, sono in casa, che ti devo fare? Io? Allora, dimmi. Niente, ha fatto bene a rinchiudere dentro. Io mi mettevo anche i miei cani. Buttavi i Doberman dentro, i Doberman nella gabbia. Mi sembra incredibile. Ragazzi, però, la reazione... No, non c'è da giustificare. Parenzo dice che sei una bestia. Dice che sei una bestia. Ma non c'è neanche aggettivi. Cosa vuoi dire? Diglielo, sei un criminale, una bestia. Ma chi vuoi dire? Ma io penso che già le sue parole bastino a dire chi è. Il criminale è lei che è entrata in una proprietà privata a frugare. E il criminale è lei. Mamma mia. Questo però, scusa, per questo però andiamo con i fatti. Simone non ha tutti i torti, a parte togliamo i Doberman. Però la realtà se è... Se mai chiami la polizia. Sì, d'accordo, però... Cosa rinchiudi in una gabbia? Vabbè, quelli intanto per non sapere né leggere né scrivere... Ti ricordo, siamo in un paese che si chiama ancora, perché dalle parole delle persone non mi sembra, per fortuna non governano questi qui, per fortuna, quelli che telefonano, perché se governassero questi che telefonano, saremmo in uno stato di diritto, come dire, anormale. Questo signore sostiene che siccome una sta frugando tra la spazzatura... sarebbe uno stato ancora peggio di come stiamo adesso, capito? Farenze o no? Comunque continua, dai. Comunque non tu avresti buttato pure i Doberman. Avresti buttato dentro pure i Doberman. Ma mica per farli attaccare, sicuramente per farli prendere ancora più paura. Fammi sentire sti Doberman che c'hai. Fammi sentire un bel Doberman che si scatena. Vai là. Vai addosso a Rom, vai nella gabbia. Adesso azzanna il padrone, speriamo. Vai nella gabbia. Ha la sfortuna di avere un padrone talmente coglione che ciao. Ma il coglione tu ce l'hai nella testa. Sì, sì. Senti il Doberman, mamma mia, senti il Doberman, mamma mia. Ciao Simo, ciao. Ciao, un abbraccio. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, pubblicità. La zanzara. Mamma, lo sai che Cruciani si lava 2 volte a settimana? Ma tu lo sai perché? Perché? Prima di tutto perché non vuole consumare l'acqua. Poi? Poi non c'è il sapone. Poi? E poi perché è sporco di natura. La Crucia ha i calzini e io mica li cambio i calzini, quando si bucano li butto direttamente. Che merda. Allora, caro David, abbiamo ricevuto una telefonata del signor Yonghi Lavarini da Milano, che si stava occupando della vicenda Rom. Il fascista Yonghi Lavarini, detto anche il barone nero. Yonghi, buonasera. Oh, buonasera, faccetta Cociani. Nera, bella piscina. Aspetta, spera, che già l'ora si avvicina. Bei qua... canti patriottici. Vai, di prosegui tu, Yonghi. Quando saremo vicini a te, noi ti daremo un calcio in culo anche alle tre. Oh, belle canzoni, bravo. Com'è, Parenzi, hai detto? Noi ti daremo un calcio in culo anche per te. Dovremmo diffonderle di più. Sulla radio. Insomma, adesso non esageriamo. Io mi chiedo, mi dico, ma c'è un con repertorio tutte, musicale, culturale, con tutte quelle fughe di cervelli che ci sono. Aspetta, io prodotte in quel magnifico periodo radioso di civiltà. Beh, radioso, insomma, essere radioso di civiltà. Ma questo Yonghi Cretini, come si chiama? Yonghi Cretini. Yonghi Cretini qua. Yonghi Cretini. Ci sentivi la mancanza di Yonghi Cretini. Parenzo le sa e di nascosto le canta anche. Ma è vero che Yonghi Cretini. È vero che sei alleato. È vero che sei alleato con Storace, Yonghi? No, in realtà la destra sociale vuole costruire insieme a Giorgia Meloni e Matteo Salvini quel grande fronte nazionale come quello francese. Quello di sovranista Pelle. Che dice Parenzo, no? Quello sovranista. Quello sovranista, ma veramente la figlia di Guido, nipote del comandante Vittorio e ma ci sono tutti, nipote del Duce Benito. Manca solo Hitler. Allora. Non abbiamo trovato nipoti disponibili. Capito, sono arrivati fino al Führer. Scusami, Yonghi. È che lo fanno circolare ancora da solo per qualche ora in città, capito? Perché, che vuoi dire sui Rom? Veloce, dai, che devo chiamare una persona a Napoli. Semplicemente mi sembra che quello che hanno fatto i ragazzi da Lidl sia un simpatico scherzo educativo. Purtroppo, cioè, tu che cosa faresti con i Rom, Yonghi? Tanto per essere chiaro. Secondo me, i giochi del Colosseo, il Colosseo potrebbe essere aperto per aspetti ludico educativi. Cioè coi leoni dici? Coi leoni o anche fra di loro. Non con lo so. I leoni. Comunque il dato di fatto è che bisogna veramente alleato con la Meloni? La maggioranza di questa gente si comporta in maniera illegale e quindi le eccezioni sono quelle buone, purtroppo. Io ho conosciuto dei bravi. Sì, però voglio dire, la realtà è questa, Yonghi. Tu vorresti mettere i Rom in una specie di anfiteatro, in una specie di gabbia con dei leoni. Questa è la realtà. Sarebbe una buona soluzione, sarebbe divertente ed educativo. Ecco, Parenzo, siamo in prossimità del Führer o oltre il Führer in questo caso? No, siamo semplicemente in prossimità di una malattia mentale conclamata, non accertata dai medici, e quindi questo signore Yonghi Cretini è barone nero, nero per le idiozie della vergogna che dice, aggira per Milano. Però la stragrande maggioranza degli italiani la pensa come me, Parenzo, mi dispiace. Scusami, perlomeno sugli zingari Parenzo è in assoluta minoranza. Yonghi, cantami una canzone fascista in conclusione proprio dell'intervento, così tanto. Ma, guarda, abbiamo il canto degli arditi che vai. Mamma, non piangere se c'è l'avanzata, tuo figlio è forte, paura non ha, asciuga il pianto della fidanzata che nell'assalto si vince o si muore. Parenzo? Avanti arditi, la fiamma nera è come il simbolo della tua schiera, scavalca i monti, divora il piano, pugnal fra i denti, le bombe a mano a noi. Capito, David? Che dici? Denunzia? La conosceva questa, Davide? No, questa è una canzone bellissima. Denunzia della prima guerra mondiale. Denunzia dei nostri eroi arditi. A me dispiace per la sua, ma no, mi dispiace per la sua famiglia. È una canzone pre-fascista, una canzone degli arditi della prima guerra mondiale. No, ma a me dispiace per la sua famiglia perché si rende così ridicolo. In genere sta gente qua si esibisce sotto il tendone del circo del circo Togni, ma insomma, ciao Yonghi, ciao ciao ciao. Buonasera, ciao, buonasera Cruciani, un saluto anche a Parenzo. Saluto cretini. Che cattivo, ma Yonghi cretini, Yonghi cretini. Yonghi cretini, devo dire, non è male. Allora ragazzi, è successo una cosa incredibile nei giorni scorsi a Napoli. È successo che un tizio, un pregiudicato, un tale Topolino, canta dal balcone e diciamo è scattata una protesta da parte della gente intorno perché volume alto, canzoni neomelodiche. Questo signore si chiama Antonio Borrelli, ha 60 anni, detto, ripeto, Topolino, e ha cominciato a cantare, che ne so, Mala Femmina, delle canzoni di Carosone. La gente dopo un po' si è rotta i coglioni. Questo signore è stato in galera per cocaina. Personaggio adattissimo a questa trasmissione, caro Parenzo, che è da testare. Facciamo una telefonatina a casa di questo, com'è che si chiama? Topolino. Topolino Borrelli. Pronto? Borrelli? Sì, chi è? Qui Radio 24, buonasera. Mi dica. Come andiamo? Vado bene. Ma com'è sta storia che protestano perché tu canti dal balcone? Vabbè, che io canto dal balcone, cioè ci sta chi si consola, viene ad applaudire, e ci sta chi è che protesta, insomma, dicono che io, magari sarà qualche invidioso, solo questo, chi non ama Napoli. Beh, c'è un comitato di cittadini addirittura, 4-5 che hanno protestato, denunce, cose, perché si sente fino a 400 metri. No, ma non è vero. Ma come funziona sta storia? Cioè tu ti metti ad alcune ore del giorno fuori dal balcone? No, no, ma io la prima cosa lo faccio solo il sabato e la domenica, innanzitutto. Che fai? Ti metti lì, ti metti a cantare, poi? C'è il paniere, chi mi vuole donare mi dona e chi no. E quanto raccogli ogni volta? Posso fare 30, 35. Cioè al mese quanto tiri su? Sì, 300-400 euro così? Giusto proprio per vivere, cioè diciamo per vivere. Ma scusate, no. Perché ti chiamano Topolino? Perché quando ero piccolo ero irrequieto. In che senso irrequieto? Che c'entra Topolino? E non mi fermavo mai, correvo sempre, giocavo sempre a pallone, perciò mi chiamavano Topolino, fui sempre. Topoli, Topoli, Topo, Topoli. Beh, Topolino numero uno. Senti, ma è vero che sei stato pure in galera? Sì, sì. Tu sei finito dentro per spaccio? Sì, sì, sì. Per spaccio di che cosa? Eroina, cocaina, che no, cosa? No, cocaina no, eroina non sia mai, sì. Ma non ho capito, perché spacciavi per guadagnare? Ma, cioè, mi hanno detto, ma io non ho mai spacciato. Io non ho mai dato un grammo di cocaina in mano a uno. Beh, ho capito, allora perché hai fatto la galera? Ma cioè, i collaboratori di giustizia. Ah. Sa chi li crede e chi non li crede. Gente infame, che so. Loro, per fare numero, mi ci hanno messo anche me a dire... Io facevo questo. E tu invece, per carità, mai spacciato nulla? Io non ho mai spacciato, non ho dato mai un grammo di cocaina. Però, amico mio, tutti quelli che spacciano dicono sempre così, io non ho fatto niente. No, senta, io ho pagato, quindi non è che adesso... Quanto sei stato dentro? Sono stato parecchio. 10 anni, quanto sei stato? Sì. Senti, la camorra, che ne pensi della camorra a Napoli? Fa schifo, fa schifo. Ma non è che diciamo sì, fa schifo, diciamo. Tu che idea hai? Che è una roba è il male assoluto o no? Oppure ha degli aspetti positivi? Ma diciamo che la camorra in vera e propria è un cancro, è un male, è un male incurabile. Cioè non c'è traguardo per quella vita là. Perciò io mi sono messo solo a un balcone per dare un messaggio e dire: chi vuole cambiare, ragazzi, si può cambiare. Ha degli aspetti positivi la camorra? Ma no, per me oggi attualmente sono solo negativo. Perché prima le famiglie com'erano? Non erano più... Ma le famiglie prima, cioè, diciamo pure che tu sai io come mi chiamo, io non so, non mi ricordo il tuo nome. Cruciani mi chiamo, Cruciani. Cruciani. Ecco, se lo segni bene il nome, così magari... Se potrei avere l'onore, invece di parlare per telefono. Sì, dal vivo. Sì. È meglio, vi incontrate, vai a trovarlo, giusto, ha ragione questo signore, vai a trovarlo. Io non mi piace parlare attraverso il telefono. Ma hai perfettamente ragione. Pure negli occhi con chi sto parlando. Hai ragione. Cruciani, lui sta a Milano, allora, le posso dire anche l'indirizzo, tutto. Io divengo da una generazione sì, che quando si diceva A era A, giusto? Oggi purtroppo, cioè, non c'è più l'onore. Si sveglia la mattina e dice: comando io. Però diciamo che fa schifo, l'onore. Diciamolo chiaramente, forte, chiaro, una volta per tutte: la camorra fa schifo. Vabbè, diciamo che ma diciamolo proprio così, amico. Proprio così, pulito. La camorra fa schifo. Lo stai dicendo tu? Io non è che no, per me io. Cioè, ti posso dire solo, chi dà ci acconsente, si dice a Napoli, va bene? Ah, scusa, beh, ma... Non stai, no, scusa, non stai dicendo, la Camurra fa schifo. No, è una cosa semplice, signore. Fa schifo su certi punti. E su altri, su che cos'è? Su che punti può essere che non è che fa male. Cioè, ci sta pure qualcuno che della vecchia guardia, diciamo, magari, mi la pensi in un modo che... Diciamo che in se stesso, Cruciani, che... quando esistevano i guappi di quartiere, diciamo i guappi, va bene? Sì. Il guappo era quello che faceva rispettare il quartiere. Ah, tu dici prima c'era gente che assicurava, esatto, una certa protezione, una certa, esatto, sicurezza. Esatto. Mentre che oggi c'è tutto un via vai. Scusi, a me la cosa unica che interessa, signore, che canta, è quella che lei dica la camorra fa schifo. No, se ma boh, biba, la camorra fa schifo. Ma se non lo vuole dire, non lo vuole la dire. Camorra senta, fa senta, schifo. Senta. Sono quattro parole semplicissime. Quattro. Sì, la... Ma io vedo che la cosa. Provi a ripetere con me, provi. Per il collo. No, per... no. Sì, io le dico, se lei vuole parlare con me, mi faccia il piacere, signor Cruciale. No, è Parenzo, questo si chiama, questo si chiama e parliamo. No, ma si chiama Parenzo. No, ma io non vengo. No, ma si chiama Parenzo. Lei che sta facendo? Io siamo in un collo telefonico, giusto? No, ma si chiama adesso Cruciale verrà a trovarla di persona senza dubbio. No, ma secondo voi, signor Cruciale, dovrei camminare domani con una pistola addosso per colpa vostra? E lei mi sta facendo dire, mi vuol far dire una cosa, io gliela posso dire, ma no, è detto così. Comunque, scusi, il problema è quello, si chiama David Parenzo questo, no, qua. Ma io non lo conosco. A Roma, David, che è quello ma che ha detto queste cose. Nomi, cognomi, non mi però la cosa più divertente è un'altra. Vorrei che per noi lei cantasse le canzoni che qualcuno vuole che lei non canti più. Qual è la canzone che canta di più lei al balcone? Ma io la canzone che canto di più è... diciamo è la pizza. Come fa? Come fa sta pizza? Ma tu vuoi fa pizza, capo maro la coppa, capo maro la coppa. Ma tu vuoi fa pizza, ma tu vuoi fa pizza e niente più. Non se ne frega. Allora, poi che abbiamo Carosone pure? Tu fa l'americana, sentami chi tu fa fam, tu vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi senti disturbato. Ma Maruzzella come fa, Maruzzella? Maruzzella, mi mise rinda all'occhio mare e mi mise un bitto a me non dispiacere. Beh, amico mio, stupendo. Un'altra la camorra è roba brutta, diciamolo ad alta voce. Se la camorra per me era buona, io ci stavo in camorra, no? Giusto? Allora diciamo. Bene, per me può essere un'opinione mia. Topolì, però... chiudiamo con la canzone, chiudiamo con un'altra canzone, la tua preferita, a parte quella che hai fatto. Chiudiamola proprio una canzone bella, lunga per tutti gli ascoltatori della Zanzara. Canzone, una grandissima canzone, ma... vai. Tu vieni, non vorrei ne chiamare, ci passa pure sole e se ne vuoi, ma tu sei la durosa preda estella. Caramella, tu chiagna sulla sinistra vede e strilla sulla sinistra sente, ma non me ne frega. Ma non è acqua e sangue in divina, Carmela, questo è Napoli. Amico mio, hanno scritto il pregiudicato Topolino canta dal balcone, il pregiudicato dicono i giornali. I pregiudicati sono loro. Chi loro? Chi? Loro chi? Ma tutti questi vicini che dicono che io, perché una volta mi ricordo che venivano da Topolino, chi? Ma si hanno rubato un motorino, si hanno rubato la macchina. Chissà come mai. Chissà come mai da Topolino risolveva i problemi. Bello. Da Topolino che andava col balcone, Topolino non è buono più. Tu... Era un camorrista questo che andava avanti. Ma tu sei stato un po' affiliato a qualche clan, Topolino? No, io sì. Sì, sei stato affiliato a te. Ma no, che, prima, una volta. Del quartiere. Una volta. Questa era. Stava affiliata, eri simpatizzando. Vengono e ti ammazzo. Comunque, se mi va bene così, ragazzi, quello che canta. Comunque, Carmela. Carmela. Se l'amore o contrario la morte, tu sai. Ti rimane soltanto speranza e tu sai non mi può far aspettare fino a domani. Astrignami. Viva! Questa sera. Carmela. Beh, amico mio, viva Napoli! Viva Napoli e viva le cose belle! Viva Maradona! Viva Maradona! Io dico, siamo belli Maradona, chi si può mai ci scordare, ringraziamo a sua squadrona, che ci fanno risonare. Beh, amico mio. Pizza napoletana, margherita e marinara, sulla Napoli te li ha mangiati, si ho perduto un consolato. E la Juventus sono tutti ladri, amico mio, eh? Oh, non me ne hai parlato, quei colori non me ne parlato. Io li odio. Li odio, beh sì. Come è bello l'azzurro. Li odio. Lei, lei scusi però, mi permette. La Juventus lei deve odiare la Camorra, non la Juve. La Juve è un'altra roba. No, la Camorra è peggio. Tu devi dire la verità. La Camorra, la Juve è peggio della Camorra, dillo. Ma è più larda della Camorra. Più larda, che è più? Più ladra, ladra. Più ladra della Camorra. Mi pare, questo è un po' eccessivo. Comunque per tutto. Ciao amico mio, ciao, ciao, okay, ciao, amico mio. Ciao, Topoli, Topoli, Topoli, Topoli. Quando mi vuoi, questo è il mio numero. Vieni a andare e ti faccio mangiare una bella pizza. Ma per carità. Vengo a casa tua, sicuro, ciao amico mio, ciao. Vieni. Ciao, ciao. Sì, ciao, vai, ciao, vai, ciao, vai, ciao. Bravo, così dando il concorso esterno, bravo. E adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Le vedi? Non si può entrare nell'angolo rotture. Non si può entrare nell'angolo rotture della Lidl. Vieni! Non si può entrare nell'angolo rotto della Lidl. Okay. Allora, è arrivata una notizia, caro David, che le persone, gli addetti della Lidl, gli impiegati della Lidl, sono stati individuati dai carabinieri e pare che siano indagati, non avevi tutti i torti, per sequestro di persona. Per sequestro di persona. Parenzo anticipa i carabinieri! Per me non succederà nulla, a questi qua. Questa è la mia previsione. Mi pare abbastanza evidente, no? Ma che c'hai? Una voce bassa perché sei colpito. Perché sei colpito da questa cosa qua. Sei rimasto colpito da questa cosa e sono colpito dalle reazioni delle persone che, a prescindere da qualunque, dice a casa mia sono venuti i rom, ma che c'entra con una signora però, messa, ragazzi, in gabbia? Vabbè, ma messa, cioè, in gabbia sarà per 20 minuti, dai, un quarto d'ora, ma 20 minuti. Anche tu che vabbè, ma è come un gioco tra cioè, voglio dire, non credo che questa qua abbia avuto delle conseguenze particolari, dai, su. Scusami, cioè, adesso io vabbè, non voglio, sì, la prendono per una il voce culo. Normale. Andavano lì, tu reputi normale? No, non normale, è normale, non è normale. Che una persona, una zingara, chiamala come io la chiamo una persona, una rom che stava rubando degli oggetti, rubando degli oggetti buttati, perché sì, i fatti sono importanti, scartati, degli oggetti, sì, scartati, e che di lì a poco sarebbero finiti nell'immondizia. No, che ne sai, magari venivano dati a persone scelte dalla Lidl, o ai poveri, che non lo so, comunque è la Lidl che decide, tra oggetti, non la zingara che sta là, stava ravanando tra oggetti quelli buttati, la chiudono dentro. Tu reputi divertente e normale, sì, che un gruppo di persone prendano questa persona, la chiudano in gabbia e la sbeffeggino in gabbia, come minimo, infatti, gente, vengono indagati per sequestro di persone, ma come minimo, e trovi normale che dei miserabili chiamino alla radio in diretta, sì, per sì, dire, siccome a casa mia abbiamo avuto la visita di un rom, è giusto che quella lì che stava prendendo del cibo buttato, cioè una che non è entrata a casa di quello stronzo che ha chiamato prima, sì, non è entrata, dice no, ma io sono contento che quella lì, in quanto rom, cioè capito a cosa siamo arrivati ormai, alla proprietà, venga famosa uccisa, proprietà transitiva, venga uccisa, venga sbeffeggiata e rinchiusa in una gabbia. È questo che a me ormai mi rende, e c'è come anche dire, la gabbia totalmente... c'è anche i leoni, ci sono anche quella i leoni, altro, eh, proprio la gabbia dei leoni. Federico da Milano, vai, Federico da Milano che Federico da Milano, Federico, sentiamo. Buonasera. Dimmi. Allora, sostanzialmente io dell'episodio in oggetto, visto che giustamente Parenzo vuole rimanere sul fatto, condanno il fatto la prima cosa che l'abbiano ripreso quei telefonini. Oramai io odio tutto questo. Vabbè, però è successo quello, perché doveva rimanere, doveva rimanere invece. Non ho capito, no, dove no, però le risse tra bulli tra ragazzini. Vabbè, quello però è successo. Che cazzo vuol dire? Vabbè, okay, rifiuto per della modernità? Che no, vuol no, dire? No, no, no, però rifiuto del voyeurismo. Vabbè, hanno fatto mano, bene però, o male questi qua della Lidl? Hanno fatto male, ma non li condanno. Nel senso che sì, noi vabbè, amico, ma non fare il democristiano, dai, su. Fammi parlare. Fai il democristiano, fai. No, non faccio il democristiano. Allora, hanno fatto male a metterli in gabbia, non si mette una persona in gabbia, punto finito. Dopodiché, quelli come Parenzo, che io voglio dire, da un certo punto di vista, del quale io non condivido quasi niente, che si scandalizzano perché succedono queste cose, dovrebbero prendersela invece tutte quelle centinaia di volte nel quale c'è il comportamento contro l'educazione civica, contro il benessere delle persone. Vabbè, questo che cazzo c'entra? Dai, Federico, cioè, non io vivo non la sa... Barona Milano. No, e allora che succede alla Barona? Allora, la Barona Milano, ad esempio, io ho sotto casa uno di quei gabbiottini gialli dove la gente butta i vestiti che poi allora dovrebbero venire. Allora, tutti i giorni i rom entrano, rovistano e lasciano la merda per terra. Passa l'AMSA che deve riprendere e rimettere dentro. Allora, siccome io pago la TARSU come te, come Parenzo, e invece questa gente è sporca e obbliga l'AMSA a uscire un'altra volta, sì, vero, il costo lo paghiamo noi, allora se le istituzioni dicessero a questi rom, che tanto li vedono quando vanno dentro, li pigliano, gli danno 100 euro di multa. Sì, e quando lo pagano la multa? Beh, bravo, bravo, il punto è quello. Siccome non ho capito, Federico, ciao. Interviste nelle discoteche milanesi da parte dei milanesi imbruttiti. È una serie, Parenzo. Sono tornati a intervistare le persone su vari argomenti. Il primo argomento è: chi è il Presidente del Consiglio? Senti. Il nome del Presidente del Consiglio. Alfano. Berlusconi. Matteo Renzi. Quello è già andato, ce n'è uno nuovo. Ma c'è un uomo? Non c'è il Presidente del Consiglio. No. Interviste nelle discoteche milanesi. Che cos'è il 25 aprile? Che festa è il 25 aprile? La Pasqua. È Pasqua il 25 aprile. Festa della libertà. La liberazione. Da che cosa? L'umanità. Dell'umanità. Questa è una liberazione. Ma di che cosa? Gli ebrei. Gli ebrei è stupendo. Quando è nato Gesù? In che anno è nato Gesù? Chi? Gesù. In che anno è nato? E che ne so io quando è nato? È nato prima di Cristo. Nel 900 avanti Cristo, non lo so. 1800 qualcosa, non so. Nel 1900... Nel 30, anni 30. Non lo so. Tra l'altro la data di nascita di Gesù è sconosciuta, cioè l'effettiva data di nascita. Cos'è il suffragio universale? Che cos'è il suffragio universale? Il suffragio universale secondo me è una catastrofe che può succedere un momento all'altro nel mondo. È quello dell'Arca di Noè. L'Apocalisse? Il Papa nel suo percorso della vita ha invitato i suoi discepoli a seguirlo in questo suffragio. Questo è straordinario. Sì, questo è giusto, sì, certo. Questo suffragio universale. Sì. Le unioni civili, senti questa, vabbè, la gente è incredibile. Poi uno dice, cioè, quando tu utilizzi certe parole alla radio, devi renderti conto dell'umanità che magari ti ascolta, no? Sì, tu dici quindi dell'analfabetismo, no, di ritorno. Sì, questo no, ma devi renderti conto che quando noi utilizziamo noi certe parole, cioè però la parola scissione nel PD, vabbè, se tu lo vai a chiedere, queste sono cose basilari, no, abbastanza ma ti voglio basilari. Dire, se dovessimo cioè, fare un scissione... campione sull'alfabetizzazione, no, del ma lascia nostro perdere, paese, adesso, questo qua... partendo da chi chiama la radio, no, ma ti sbagli, tu ti metteresti le mani nei capelli. No, ma sono tutte cose snob, non è quello il punto. Snob, se tu senti queste cose qui e poi parli e poi usi certe parole, la scissione nel PD, le correnti, ti senti improvvisamente di un altro pianeta, ma non è una cosa, non è una bella sensazione, capito? È una sensazione di distanza. Io la provo fortissimamente questa sensazione di distanza, pur sapendo cosa sono le unioni civili, chi è il presidente del consiglio, cosa si festeggia il 25 aprile, la nascita di Gesù, il suffragio universale, ovviamente. Sentiamo le unioni civili, sentiamo le bestialità. Le unioni civili sono civili perché? Perché uniscono due coppie, una coppia di due sessi. Sono civili perché la gente si comporta bene, non litiga e non si picchia. Questa è straordinaria, eh? Allora, Benedetto da Roma, vai. Benedetto da Roma, poi Paolo, Lucia Pordenone. Oddio, Lucia che vuole, poi la chiamo. Niente clienti stasera, eh? Niente trombate stasera, se chiama Roberto Parma, vai. Paolo, per ordine, Paolo, vai. Beh, io Cruciani volevo dirti una cosa, sei un coglione. Sì. Ma proprio un coglione forte, sai perché? Perché? Perché tu sei uguale ai bulli che sì. fanno gli scherzi alle persone deboli e sì. poi ci ridono sopra. Sì. Perché quelli che hanno fatto quella cosa, che hanno chiuso questa nuova lì dentro, magari sì. hanno fatto anche bene a chiuderla dentro perché stava rubando, eccetera, ma non ci sta a pigliare per il culo, non ci sta a ridergli addosso, non ci sta a trattarla come una scimmia, come un animale. E tu sei lì che ti diverti. Ma io non ho detto, ma ragazzi, sei fa ridere questa cosa qua. Oh, amico mio, ma se la mia prima reazione è la risata, cosa vuoi? Non è successo, ma non è successo nulla a questa signora. È successo un fatto grave. Come? Il fatto stesso è grave. Il fatto stesso è aberrante. Fammi dire una cosa. Se tu c'hai un figlio che va a scuola e ruba una brioche perché c'ha fame e tutti gli altri le tirano addosso un pezzo di brioche, tu che cazzo fai? Ci Vabbè, ma quella è un'altra cosa, dai. No, è uguale, ma non è uguale, è dai, ma non dire cazzate, dai, non dire stronzate, qua, dai. Questi qua hanno fatto la stessa cosa, cioè hanno trovato questa che poteva rubare, prendere i rifiuti, l'hanno, cosa, detto, cosa gli hanno detto? Ah, ma tu stavi rubando, che cazzo c'è, non si può rubare qua, gli ridevano in faccia, questa qua che cazzo di... Può essere una nuova. Ma io non ho mica detto che hanno fatto bene. Cioè, attenzione. Ma riso sopra. Paolo, vabbè, ma ho capito, mi viene da ridere perché la risata fa ridere. Allora, l'urla, quelle urla di Sumane. Fa ridere per niente, ragazzi, ma che vi devo dire? Se quelle ti urla viene di da ridere, forse c'è dei problemi, eh. Se ti viene da ridere altre problemi, ce l'hai cosa, tu nel cervello, ce l'hai i problemi, no io. Tu c'hai le pigne nel cervello. No, non copiare le espressioni dal sottoscritto, usa un'altra espressione casomai. Dimmi che ho le rotelle che non vanno. Però queste cose tu non le devi dire. Allora Paolo, senti, io dico, io sono abituato. Come puoi pensare che puoi Paolo, arrivare di una cosa del ma genere? Tu puoi tirarmi addosso tutta la merda che vuoi, mi puoi tirare ma tutte no, le pietre che vuoi, non è un problema. Noi qui siamo talmente aperti che tu puoi chiamare, mi puoi mandare a fare in culo, mi puoi dire che sono un coglione, mi puoi dire che sono un cinico, un pezzo di merda. Il punto non è questo. Io sono una persona sincera, naturale, sono una persona vera. La mia prima reazione di fronte a questo video, certamente io non avrei né rinchiuso la ROM, penso che questi qua abbiano sbagliato, naturalmente abbiano sbagliato. Credo che non succederà nulla perché credo che la cosa sia durata anche poco. La mia prima reazione quando vedo questa roba qui, quando sento queste parole, perché siamo alla radio, ho visto anche il video eccetera, è che mi metto a ridere perché le urla disumane della Roma un po' mi fanno ridere, ma della Roma come potrebbe... La mia prima reazione è di schifo, e va bene, la sensazione figlio, moralistica è quella dello schifo, va bene, d'accordo, lo capisco, per carità. Ma non è lo schifo, è il segnale del rispetto alle persone. Va bene, ma infatti sto dicendo che questi qua subiranno e le conseguenze... E sopra, che faccio? Che faccio? No, diffondo il razzismo, diffondo il razzismo in giro sì. per l'Italia. Ecco l'altro, ma che è arrivato. Guarda, certo. Ma non è che è arrivato, è arrivato l'altro supposto. Dai, è così. Vogliamo chiamare Lunar, vogliamo chiamare il cappottino arancione. Ma no, ma non chiamiamo serve, il cappottino arancione. Serve, dai, no, serve. È stato licenziato. Scusa, il cappottino arancione. Ti ricordo, David, che il cappottino arancione, l'ho detto all'inizio di questa puntata, ex presidente del Lunar, mandò alcune lettere qui a Radio 24 che io ho chiaramente stracciato e mi sono pulito il culo durante uno dei miei viaggi qui ai bagni della PricewaterhouseCoopers. Questo signore mi ha mandato delle lettere indirizzate a questo ufficio e anche a te, sì. accusandoci di razzismo. Me lo ricordo. No, no, alcune ma... volte alcune persone sono razziste, indubbiamente. Sì, no, ma accusando a me non lo so. Purtroppo ma... non le ho conservate queste lettere, che mi sono veramente pulito il culo. Cioè, sono andato di là e le ho utilizzate come carta igienica. Io reputo razzista quello che è avvenuto a sentiamo anche a Benedetto da Roma. Dai, poi Antonio, dai, tutti contro di me. Leggo qua dai titoli: dipendenti vanno licenziati. Cruciani, un coglione. Ma non c'è dubbio, ma questo chiunque di buon senso lo dice. Benedetto, avanti. Buonasera a tutti. Quello che è successo è assolutamente razzista e mi associo all'ascoltatore di prima. Bravo. Perché Cruciani, nel momento in cui tu ridi di questo sei complice. Bravo, bravo. Ed è bravissimo. Gravissimo. Ah, vai a fare in culo. Bravissimo. È assolutamente gravissimo. Bravissimo. Voglio dire un'altra cosa. Bravo. Tu e il razzismo e queste puttanate. Complice, esatto. Io bravo, mi sono bravo, messo Benedetto, a ridere perché, perché una cosa del genere, la prima reazione che mi viene è l'urla, siccome non l'hanno ammazzata, l'hanno tenuta dentro poco. Va bene, ho capito. Aveva comunque rubato, sì o no? Ha rubato, sì o no? Chi ma non ho capito, ma se uno rompe alla violenza, ma chi ride di fronte alla violenza è un complice. Esatto, è un complice. Esatto. E aggiungo un'altra cosa. Io spero. Come quelli che ridevano quando le persone finivano nei treni, uguale. Dici, no, io rido. Non dire a me fa ridere quello che finisce nei treni. Con il, è così. Con, stai facendo un paragone con epoche che tu contesti sempre. Contesti sempre queste cose qui. I paragoni che fanno con l'ebraismo. È l'indifferenza. Anzi, di più, non è l'indifferenza. E facciamoci un libro sopra. Ha ragione, facciamoci sopra un libro. No, dai, nessun libro. Un articolessa domani su qualche quotidiano. Sì, speriamo che lo facciano, perché c'è una grande differenza tra essere indifferenti e quindi voltarsi dall'altra parte, che pure è criminale, ma addirittura sorridere di un fatto così. Guarda, cioè, se l'indifferenza è criminale, vabbè, voltarsi dall'altra parte, perché è criminale quando vedi una cosa contro la legge, ti ho detto che una qua, cosa disumana, probabilmente verranno, ma è ancora verranno più grave appesi, ridere della sofferenza di un altro. Questi dello qua scherno, verranno appesi, se le cose sono confermate, verranno domani criminalizzati, appesi là, al patibolo, ma me lo auguro, al patibolo di quelli la del signora, razzismo, dai. L'altro, la signora messa in gabbia non sapeva come sarebbe finita la faccenda, mi segnalano giustamente, e urlava anche per la paura, cioè ridere della paura. Vabbè, di una, ragazzi, donna, la prima reazione questo è, criminale. Io rido per le urla, perché sei per disumano, ma per le urla è il tipo, una che urla perché è messa alla, perché è disumano ridere. Vabbè, ridere, Lucia, di una, ma che se uno male, scusa, però ragazzi, se uno va è a rubare disumano. Se uno va ma a rubare poi, in un posto, si può attendere anche di essere rinchiuso dentro. Ma è disumano ridere di uno che sta male. D'accordo, ragazzi, è disumano ridere di uno che sta male. Lucia Pordenone, dai, Lucia, scusami, non ho avuto tempo stasera, cara puttana. Bravo Benedetto, bravissimo. Cara puttana della mia vita, Lucia. Lucia. Oh. Pronto? Lucia, che vuoi? Come che voglio? Dopo un'ora che ti aspetto, mi dici che vuoi? Scusami tesoro, cara puttana, tu sei la puttana della mia vita, la puttana della mia radio, la mia puttana preferita, come diceva García Márquez. Sì. Là. Tesoro. Ascoltami. Amore, che vuoi? Ma sai, stanno facendo le multe. Dove stanno facendo le multe? Questa è una notizia bomba. A Conegliano. A Conegliano stanno facendo le multe. Io ho il magnaccio. Ogni sera c'ho il magnaccio. Cioè, in che senso c'ha il magnaccio? Mi prende 100 euro e se ne va. Beh, no, questo non è buono. Che sarebbe il magnaccio? Scusami. Il carabiniere. E perché prende 100 euro da te? La multa? Ma ti hanno fatto una multa, veramente? Già tre multi m'hanno fatto. Fermi tutti! Fermi tutti! La battaglia per far togliere le multe a Lucia. Lucia, però queste qua, io voglio vedere queste multe domani se devo fare la battaglia. Non mi dire cazzate, non mi raccontare ma puttanate. Ma te le faccio vedere. Hanno multato Lucia, si sono permessi di multare Lucia da Pordenone. Fermi tutti, a domani Lucia, mi racconti tutto. Devo finire purtroppo, devo chiudere stasera. Ci siamo occupati della vicenda della Roma rinchiusa nella gabbia, che urlava con la gente incazzata perché dice che sono razzista. Ci vedremo tutto domani, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Va. Radio 24. Libera la voglia di fare.